Ma Valdi, buonasera. Quella gente. Oui, e allora? Città così? Ma ti dico la verità, buonasera. Che dopo mangiato mi sono sdraiato e quindi ci sto quasi per uscire anche. Ti hai fatto la pennichella, va? Hai fatto questo, io ho fatto così. Dopo mangiato mi sono sdraiato, anche se non è molto salutare fare così, perché per la digestione non va molto bene, ma ho fatto una bella pennichella, grazie a Dio, già sto bene, va? Mi stanno calmando anche i dolori, mi hanno cambiato la terapia, via, non mi arrivava. Lo so già, lo so che non è ideale, è che oggi è andata così, che mezza giornata di lavoro, quindi pranzo a casa e niente, quindi quando dopo mangiato se non fa niente ti viene la sonnolenza, ti butti un attimino sul divano e Morfeo, lo sai com'è, strapagante com'è, ti prende, ti avvolge, ti distrugge e poi ti lascia andare. E quando ti alzi inizi a ruttare. Inizia a digerire. Per carità. Siamo cambiato la cosa, là, capito? E quindi ha migliorato. Sì, diciamo che sei sempre molto, molto più alleviato. Dove vuoi fare il passaggio? Sto camminando con una sacca. Sul passaggio? Più erano due. Adesso è una solo, perché un femore già non mi fa più male per niente, perlomeno oggi. Poi bisogna vedere se continua così. L'altro c'è un dolorino leggero, ma non è come prima. È roba di reumatismi, quando fai molti sforzi tutta la vita è quella la ragione, c'è poco da fare. Sì, se te l'hai fatta la pennichella vuol dire che ne avevi bisogno, là. Sì, ecco, ieri notte con degli amici abbiamo fatto tardi e quindi una rossita e sono andato tardi, verso mezzanotte a casa. Poi sono andato a lavorare stamattina tra fare armatura, pannelli e calcestruzzo, però ho finito diciamo mezzogiorno e mezza e quindi, visto e considerato che non c'è niente da fare, mezza giornata me l'ho presa libera a riposo diciamo. Bene, bene, aspetta un attimino, Antonio, ci sei sul 10? Eccolo, ciao, ciao già. Ciao a tu. Anche tu a riposo, sì? No, io ho finito 20 minuti fa. Ah, vabbè, va. Adesso relax. No, adesso sono qui a fare qualche cosa. Ascolto, devo scappare un attimino, accompagnare Gabriele a una festa qua giù, qui vicino, diciamo a 10 minuti, un quarto d'ora di strada, dai. E poi mi avvicino, dai, così ti do una mano. No, te l'ho detto per andare. E cacchio, ti ho detto che appena uscivo dal lavoro, verso le 5, 5 e mezza sarei venuto, ma alle 5 e mezza devo andare a accompagnare Gabriele. Se ti per accompagnare lo facciamo. Ma se non ho preso nulla qui ancora, sto ancora finendo lì da mio fratello. Sono sceso perché mi serviva la macchina al colletto e l'avevo lasciata qui, che devo rifilargli dei pannelli, dovevo fare in fretta perché lui dice c'è il prato della chiesa di mia nipote lì e quindi dovevo anche qui. Ah, ho capito. Vabbè, domani sono di spesa e poi sei lì domani mattina? No, domani mattina sono, dove sono? Ah, domani sono impegnato, che domani mattina con il tecnico, a casa per la fibra. Domenica invece non ci porto più in campagna perché ci sono momenti ambienti e mia figlia è lì a spiegare, sai, non lo metto neanche, non vado a vederla. Sta pagato. Vabbè, meglio così, vabbè. Quindi rimandiamo tutto a se tutto voi, se lunedì no, martedì dopo le 5 e mezza però. Scusa Gianni, lo prendiamo, intanto cioè prima da puntellare, non la puoi bene anche dall'altra parte, niente, te lo tiriamo piano piano, ce lo tiriamo totalmente di dentro. In due, già, cosa bella, in due, via, per il figlio del tuo, io non so, stravagante. Sì, ascolta, allora di questa radio qua, poi vabbè la apro, faccio due foto e ti spiego cosa dobbiamo fare in un'altra identica gemella a questa, praticamente una modifica dell'FM, niente di particolare per te, già lo so. Questa? Che il input? Solo che non c'ho... Ah, là. E beh, cosa devi fare? Certo, la faglietta, in un'altra radio. Ma perché esce male questa radio? Non puoi chiedere a me, ti sto ascoltando una scatola del giardino. Tutti mi dicono che va bene, siccome c'è una gemella di questa, anzi sono 4-5 gemelle di queste, è che bisogna copiare la modifica. Sì, quella di tu. Ascolta. Tu vai la collezione? No, non sono mia. Allora, quanti ci vuoi passare, io sono qua, mi. Compagno il bambino e tu ci vuoi passare, io sono qui. Questo di Giappi? Va bene, no. Mi dici di sì. Che cosa? No, che lui voleva... Dovevamo fare un lavorettino qui, diceva, ma no, per il suo tempo. Però non lo potevo fare oggi, non lo potevo fare perché sono impegnato. Dalla settimana avevo pensato la cosa più importante. Quello che serve al baracchino? No, là per piccolo. Ah. Vabbè, dai. Lascialo fare, se non fa piccio. Piano piano, dai, a scala, sta andando avanti, dai. Bravo, bravo Arturo, sarai ricompensato. Sì, dai, deve essere una mano la parata e tutti e due la faccia, così deve essere. Non ti credo che ti metterà a aprire le porte o i cancelli, però insomma ti darà la scopa per la parentela, insomma qualcosa te la darà. Poi guarda che non ce ne sono cancelli là su. Ah sì, cacchio, uno ce n'è, buh. No, per ma dico di aria fresca, speriamo che ti prendi che c'è anche come dicevo di ritigno. Oh, guarda che ti ho mandato una foto. Sì, io per dare la foto non riuscire a entrare, tu. Dai, vado un attimino che devo fare anche una cosettina, però così la guardo, già un secondo. E poi dobbiamo fare una domanda. Sì, non c'è problema, dai, stato guardare anche con calma, o almeno ti studi cos'è. E mi dici quello che vuoi prendere, vabbè, a dopo, più tardi. Vai Gianni, vai. Tutti non è che c'hai capsule di quelle di citofono? No, ti serve per un più 5 o per un più 4, così è. No, mi serve per il DM1000, le voglio cambiare la capsula perché mi ricordo che fa cagare, che fa che là. Ti voglio cambiare la capsula a vedere se funge meglio. Guarda, non ne ho, però sai, c'ho praticamente in un microfono che ho io l'hanno messa. Ed è quella che utilizzo con il Lincoln, però magari dipende dal microfono, dipende dalla radio, non lo so. La vuoi sentire? Ehi, se mai provi, mai lo sai, perché tanto la capsula non costa nulla. Se magari ce l'ha uno che me la può dare, non c'è problema. Se no, magari anche la Fusaro ce l'ha. Ce l'ho io già. Ce l'hai? Sì, ce l'ho io, sì. Ciao Tino e ciao Gianni. Ciao, ma come mai tutto questo tempo che non ti sentiamo? Ero anche preoccupato. Sì, vabbè, sto cercando di risolvere un problema già. Poi vedremo, dai. Scusa che... Ciao Giulio, ben ascoltato. Io però devo allontanarmi, dai. Ci sentiamo magari più tardi se coincide. Già, non lo so, se lo vuoi sentire... attacco, ma è già attaccato al Lincoln. Fammelo sentire, almeno vabbè, sarà un altro microfono, c'è un'altra spinta normale. Però la, diciamo, il circuito DM1000 è buono, capito? Quindi se la capsula è buona magari rende di più. C'è un po' di casino. Questa qua è la modulazione dell'input, però magari può anche dipendere dalla radio, che magari spinge troppo oppure è regolato differentemente da come dovrebbe essere regolato. Ma io lo posso regolare, col MacLean lo posso regolare la modulazione, la posso mettere più bassa, più alta, come voglio io. In questo apparato, con l'apparato lì c'ho il MacLean, quindi non c'è nessun problema. La modulazione già è bella, basta regolarla con MacLean, con lui non c'è problema. Avanti. Ok, dai. Vabbè, questo è Lincoln, qui MacLean non ne ho, quindi posso solo regolare col MacLean del microfono, non quello dell'apparato. Devo andare, va bene, è giusto per farti capire come andava questo microfono, differentemente dall'altro più 5 che magari è un pochino più chiara anche la modulazione. KK. Eia, grazie Tito, ci sentiamo, dai, siamo qua. Avanti giù. Ok, ciao Tito, stai chiedendo. Sì, però la corretta che non volete, poi sarà tu di tu, sarà anche tua voglia. Però un secondo che c'è il telefono che sta squillando. Ok, vabbè. Poi giù. Dimmi. Se lo sapevo non mi sarei manco alzato. Se lo sapevi, no? Non mi sarei manco alzato, ho detto. Che ero sdraiato, capo. Sono sempre quel rompipalle delle ditte che ti vogliono proporre i loro prodotti, dai. Ah, io ho capito. E ogni tanto anch'io già ne dicevo di questo tipo di telefonate, che mi fanno anche incavolare, perché io vorrei sapere per quale motivo questa gente, ma io tante volte gli ho detto, magari se io ho bisogno di prendere qualcosa, anche perché tu glielo rispondi in maniera educata, no? E loro insistono, ma se ti sto dicendo che non voglio niente, chiudi e basta, non lo prendo le scatole. Ecco com'è la situazione. Poi a qualcuno l'ho anche risposto male perché mi ha telefonato 3 giorni di seguito. E ho detto, ma se ti ho detto quanti ieri, e ieri anche, che non mi interessa, quante volte te lo devo dire? O sei sordo, o me faccio le orecchie, gli ho detto. Ti fa mica male, perché poi telefono sempre ad orari più pensati, adesso io per dire sono sbagliato perché ho i femori tutti e due che mi fanno molto male, ma dolori atroci tutti, adesso un po' si sta alleviando con la nuova cura che mi ha dato, però fino a ieri, guarda, i dolori erano da non sopportare, non potevo manco muovermi né camminare, ero con le stampelle tutti. Adesso mi fa alzare dal letto con dolore e coso per poi dirmi queste cose. Non ho manco risposto, gli ho chiuso il telefono e buco. Io sono, è un problema così al femore, ce l'ha mio fratello, ce l'ha. Infatti si dovrebbe operare, si dovrebbe, perché anche lui sta soffocando, proprio perché fa male il femore di una gamba, per cui sta aspettando che magari che lo chiamino per poterlo recuperare ad operarlo. Ma io ho fatto la lastra, Giulio, e c'ho praticamente un'artrosi importante alla spina dorsale, e questa artrosi praticamente ti provoca i dolori anche agli altri, perché la parte bassa ti provoca, siccome ho avuto anche il cuccice fratturato, la parte bassa della spina dorsale c'è questa artrosi e ti provoca i dolori anche. Io adesso sto facendo una cura, una parte mi è passata del tutto, l'altra ce l'ho appena appena ancora, ma non potevo camminare, non mi potevo alzare dal divano, non potevo camminare nulla, ero con le stampelle. Anche stamattina, adesso un po' si è alleviato, ho preso quella pastiglia e mi ha dato proprio la terapia da fare adesso. Ok, ho capito. Purtroppo ogni tanto ce n'è una, già, che cosa ci vuoi fare? La vita, ragazzi, è proprio crudele tante volte, non è possibile. Ma cosa vuol dire? Vogliamo campare finché è possibile. Eh, ma che non ti lascia in pace questo, da una cosa all'altra, e dal dottore, dal centro diabetico per fare, per controllarmi il piede, per farmi le medicazioni, e da quello per fare le lastre, e le lastre al piede, insomma, non ne posso più. Purtroppo è così, io Gianni, la vita è già molto crudele tante volte. Ero tutta la mattina io all'ospedale per fare degli analisi, per dopo sono rientrato a casa che era oltre l'una, da stamattina alle 7, per cui c'era una fila interminabile di persone, anche loro facendo delle visite, eccetera. Io dovevo andare stamattina a fare la medicazione, ma ho preferito fare una cosa, mi ero telefonato dalla ditta che avevo il modello CUD da ritirarmi, e siccome devo fare 7.30, quindi ho preferito farmi accompagnare da un amico giù, ritirare il CUD e mi sono fatto la medicazione io, capito? Tanto tutta la roba che mettono loro ho messo io, non è che la medicazione sia diversa, per cui ci tornerò lunedì adesso e basta, se mi accetta, se no pazienza, continuerò a farmene io, perché quel dottore è un po' schizzato, capito? Ho visto come tratta anche l'infermiere, non mi piace proprio nulla, l'ha presa a voci davanti a me e cose, no? Non va bene, stanno lavorando anche loro, non va bene a trattarli così. Purtroppo ci sono queste persone così nervose, magari sono nervose per fatti loro, poi si scaricano sulle persone, sulle altre persone, non è possibile. È una questione di stile anche quello, e soprattutto di educazione, perché non è possibile che uno se la possa prendere con le persone che ti stanno a fianco, che stanno lavorando, anche se hanno sbagliato, è chiaro, sbagliare sbagliano tutti nella vita, per cui cerca di essere un pochino più socievole, più magnanimo con le persone, non va bene così. No, era per una cosa del computer, praticamente lui c'ha un programma che le infermiere non hanno, me l'hanno spiegato a me com'era, perché poi l'infermiera ha visto com'ero con le stampelle e cose, mi ha accompagnato sino all'ascensore, quindi sono molto gentili, e mi ha fatto scendere con la scheda che c'hanno loro, mi ha fatto scendere giù per non fare scale. Me l'ha spiegato, poi ha detto per la parte 11 non posso dire altro, se non le direi tante di cose. Ha detto praticamente che loro c'hanno, che lui c'ha un programma che loro non hanno, e pretendeva che scaricassero questo foglio che lui gli ha detto, ma loro non c'hanno il programma, come fanno a scaricarlo? E si è incazzato, non voleva sentire ragioni, capito? Niente. E a me io gli ho detto, dottore, mi è successo praticamente che io prendo questa pastiglia che ordinano praticamente dall'ASL, e siccome la mattina dovevo andare lì a farmi la medicazione, non sono potuto andare dalla dottoressa, anche se gli avevo telefonato, gli avevo detto, dottore, me lo prepara, sì, venga, se non è che gliela faccio trovare pronta la ricetta. E invece non ce l'ho fatta perché sono andata a medicarmi da lui alle 10 e poi me l'ha ricevuta a mezzogiorno e mezzo. Immaginati, quindi quando io sono arrivato la dottoressa era già chiusa. E io gli ho detto, siccome già prevedevo di arrivare in ritardo, gli ho detto, dottore, non è che c'ha qualche pastiglia, e gli ho detto il nome, no? Ma lei dice, non devi aspettare all'ultimo momento. Gli ho detto, guardi, io ho pastiglie, ne ho due a casa, non è che sia, però dovevo prenderle oggi e non ce l'ho fatta perché lei mi ha ricevuto dalle 10:30, che mi doveva ricevere, mi ha ricevuto a mezzogiorno e mezzo. Ma le l'avessi detto, capito, che lui aveva tanti pazienti, che doveva metterci 20 minuti a pazienza, dopo non vedi che deve fare, non me ne frega nulla, io la buttavo a terra alle 10:30 mi doveva ricevere, non ti pare? Beh certo, tu non potevi, ascolti, cerchi di essere più educato, che sono io qua che lo sto facendo campagna lì, ma cosa serve sentenza? Se io sono venuto qui da lei, che ho necessità, ma non è possibile che debba essere così maleducato? Io gli avrei detto che è tondo, così, sì, è un grillo. Beh, alla fine io gli ho detto, dottore, io glielo sto chiedendo perché poi c'è il giorno di, c'era il 1° maggio e tutto quanto, quindi non era aperta la dottoressa, io ho fatto i calcoli, non mi bastavano due, gli ho detto, dottore, se è possibile darmi almeno due pastiglie per non mancarmi, ecco. E lui ha detto, vabbè, adesso vediamo, l'ha detto l'infermiera è scesa giù e me ne ha preso un blister, no? e lui mi ha detto può andare, senza che prima me ne stavo andando, la infermiera mi ha messo in conto e mi ha portato, ce l'aveva in tasca, hanno tamponato di fresco. Incredibile, ragazzi, non è possibile. Questa gente proprio sono delle persone assolutamente maleducate. Ma quando vai un medico, ragazzi, si deve comportare in questo modo? No. Ma cosa vuoi che ti dica già? Chissà che credono di essere queste persone, forse non lo sanno, che non abbiamo obbligati noi a fare medici o a studiare medicina, forse questo non lo sanno, dovrebbero essere gentili. No, io stamattina, la verità, sono andato e mi sono trovato con delle persone abbastanza gentili e non ho niente da dire, all'ospedale, alla cosa clemente, no? Ho fatto degli analisi e vediamo. E stiamo andando avanti. Sì, da. A me l'altro giorno, lo sai cosa mi ha detto? Che queste analisi fanno schifo, mi ha detto, perché c'è la glicemia appena alta. Poi tutto il resto andavano bene perché io le ho guardate, non c'era niente di colesterolo, era a posto, i glicidi erano a posto. Era solo la glicemia un pochino alta, però è dovuta al fatto che magari la notte mangi un arancio in più e subito ti sale. Ne mangi due invece che uno e ti sale subito la glicemia a 200 e passa. Se ne mangi uno, la mattina ce l'hai a 150, 130, capito? E io non lo so, il giorno non so che cosa mi è successo, ho mangiato uno in più, perché quello che avevo mangiato non mi era piaciuto e non mi aveva soddisfatto. E allora ho detto, ma me ne mangio un altro. Allora usciamo, va subito sale. Ma mi ha detto che facevano schifo le analisi, così mi ha detto, non facevano analisi, fanno schifo. Non è possibile, ragazzi. Io sai cosa ci sarebbe da rispondere a questo? Sì, faranno schifo le analisi, ma lei mi fa più schifo per come me lo dice. Così tu dovresti rispondere a queste persone. Una vergogna, a un certo punto bisogna cambiare il medico, perché così non si può andare avanti quando incontri certe persone. Ma sai cos'è, lì al centro sono tutti così, sono tutti strafottini. È bravo come medico, è bravo, però sono tutti così un po' strafottenti, trattano male. Infatti andavo da Fulvio al Minam, che era bravissimo, mi diceva, come te lo devo dire, sassareso in italiano. Scherzava pure, capito? Era molto bravo. Poi ha avuto due infarti questo dottor Fulvio e ha smesso l'attività, capito? Ed era magro, minchio, non è a dire che era grasso, no, era magro. E lui ha detto che gli infarti sono venuti perché ci sono pazienti che non capiscono, tutti quanti gli vanno addosso, come esce, non aspettano il loro turno, capito? E lui si incavolava magari, e tutte queste cose, dice, lo stress, mi ha fatto vedere il primo infarto e poi anche il secondo. Ho capito. Beh certo, a volte non c'entra niente il fatto che sia uno grasso, non è detto che uno per forza debba avere questi problemi, ma anche da madre questi problemi si hanno, e quanti ne abbiamo sentito, anche amici, che purtroppo essendo madri eppure ci hanno avuto un problema. D'altronde è così, la vita, ripeto, è alle volte proprio uno schifo, dopo che uno ha sacrificato la vita intera, ragazzi, da poi uno si ammala anche, proprio come il premio, quello lì è il premio, fermati, dopo che uno ha lavorato 50 anni magari, è una cosa vergognosa, ragazzi, questa lattura com'è. Purtroppo bisogna conviverci e basta, cosa devi fare? Io stamattina sono andato, ti ho detto che sono fatto accompagnare giù la ditta perché dovevo ritirare quel modello e mi hanno detto, oh Gianni, quanto sei sciuppato, come mai, e non lo sapete come mai, perché non sto bene, non dormo la notte dai dolori, tutto qua, che è normale che uno poi non dormendo si sciuppa anche, no, il viso, ce l'hai tirato il viso, ce l'hai tutto tirato, non è da te. E ho detto purtroppo è così, e adesso sto facendo qualcosa perché vado in pensione con una pensione dignitosa, però se no non ci vado, se no ritorno al lavoro e poi quando sto male di nuovo vado in malattia, non mi interessa. Se non mi danno una pensione che mi meritano, io ho lavorato 38 anni, quasi 39, certo, lavorando come un negro da cui mi date di 9 in pensione, no. Dice, ma non è sempre, dopo quando arrivi a lui, 62 anni, poi ti danno la pensione normale. A me non me ne frega niente, io li voglio da adesso i soldi. Se mi servono i soldi adesso, cosa faccio? Poi vado a chiedere le musiche. Purtroppo quello lì è un cuccio di tantissime persone. Il fatto che prendono la pensione bassa a questo punto sai cosa vuoi che gliene frega a loro, non so, purtroppo è così, loro già saranno fatte belle le leggi, vai, adatte proprio per tutti quanti questi deputati e ministri eccetera, per cui invece chi ha lavorato e ci lavora, perché quando ti danno una pensione dignitosa, cosa significa? Quando ti danno 1.200-1.300 euro pensi che sia dignitosa? È sempre una pensione così, tanto per campare, ma non è che sia una pensione dignitosa. Dignitosa la pensione ce l'hanno loro, ce l'hanno, non solamente la pensione. E poi hanno anche il vitalizio perché non ne bastava, se no ne sarebbero usciti gli occhi a tutti quanti quelli che hanno sempre amministrato l'Italia. È una vergogna, ragazzi, stavo, cosa ti vuoi fare già? Tu pensa a quelle persone che vivono con 400 euro e anche di meno tante volte, in che condizioni si possono trovare, pensa a quelli. Contributi ci vogliono. Ciao Claudio, va. Detto che ci vogliono i contributi, quella è la legge. È inutile che ci incazziamo, così è buh. Con 38 anni di contributi tu manco 1.000 euro prendi, se invece andavi con 42 e 10 mesi allora prendevi il massimo, ma quella è già, è inutile che ti arrivi, io ti capisco, quella è, non c'è niente da fare. Ciao Giulio. Allora, io ho 5 anni per praticamente per l'invalidità di scivolo e questi 5 anni sono come se avessi fatto 5 anni di contributi. No, sono retributivi, non contributivi, lo scivolo è retributivo, non contributivo. Gianni, fai da bravo. Io me ne sono andato 2 anni prima, ma con la contributiva, perché ho fatto 2 anni di anticipo pensionamento, di NASPI, te l'ho già spiegato. Hai capito o no? È retributiva, non contributiva. La contributiva li devi lavorare tutti, 42 e 10 mesi. Oh, non lo so, io comunque. La storia è questa. È questa e buh, vabbè, comunque. Non mi interessa nulla adesso, vediamo. Ci stanno lavorando i sindacati, poi vediamo un po' cosa esce fuori. Il sindacato ci lavora in base alle leggi, non è che il sindacato può fare miracoli, no? Già, l'ho già spiegato, è così, e boh. Le leggi sono quelle, non è che possiamo cambiarle noi, per io sono andato con 42 e 10 mesi, ma perché? Perché ho chiesto, l'azienda se mi dava 2 anni di NASPI, quindi se mi licenziava 2 anni prima di andare in pensione. Fatto un accordo e così ho fatto e quindi sono andato con i 42 e 10 mesi perché la NASPI è contributiva, non è retributiva e raggiungo praticamente tutto il massimo, quindi oltre 1.500 euro al mese di pensione, ma con 42 e 10 mesi con 38-39 facendo anche uno scivolo di 5 anni è retributiva, non è contributiva, non te li possono regalare i contributi già se non li hai lavorati. Purtroppo le leggi sono sbagliate, perché sono sbagliate, come ha detto Giulio, però è così, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Uno, anche se sta morendo, lo costringono ad andare a lavorare per poter arrivare al massimo della pensione, se no fai ravvami. Ciao Giulio. Ciao qua, purtroppo è così, però queste differenze che hanno creato loro, ragazzi, non è possibile che uno che debba lavorare tutti quegli anni per poter avere una pensione decente, decente tra virgolette sempre, perché anche se uno prende 1.500 euro non è una pensione decente, non è dignitosa, io non la considero dignitosa una pensione da 1.500 euro, ma le pensioni che hanno loro, quelle sono dignitose, che incominciano a prendere 5-6 mila euro al mese, che non ne prende neanche 20 e anche molte di più di 20, quelle sono pensioni, quelle che si possono considerare pensioni dignitose, ma quelle dei lavoratori, così come noi, non può essere dignitosa una pensione, anche se uno arriva a 1.500 euro, in una maniera assoluta. state sempre le grandi battaglie, sono state contro la povera gente, questi usurai, questi sfruttatori di popolo, perché sono tutti sfruttatori di popolo, compresi anche la Chiesa, non la Chiesa in generale, i preti, compresi loro, sono tutti sfruttatori di popoli. Il Vaticano era prima. Ma è così, Giulio, tu lo sai, se sei andato in pensione con 60 anni di contributi versati perché eri artigiano, cosa pensi di tal Gianni Futtindo, o cosa pensi di fare? Quello che io dico sempre anche a mio fratello è nella stessa situazione di Gianni, hai capito già? Mio fratello è nella stessa tua situazione. Preciso identico, non ha messo male però, il diabete, ha avuto un incidente, l'hanno operato la spina dorsale, e tutto va a ridosso, c'ha la pensione invalidità, c'ha quasi 40 anni, c'ha 40 anni di contributi, 39 o 40, non ci può andare perché a calcoli fatti, gli date di 900 euro di pensione, 42, 10 mesi ne vuole lo Stato per darti la pensione massima. Giulio, uno stipendio è 1500 euro, e quelli che prendono 1000 euro di pensione per aver lavorato 35 anni, c'è il mio vicino di casa, prende 1000 euro, 35 anni di contributi, quindi, e c'ho le tatuaggi sempre, quindi 1500 euro è uno stipendio, ma io cosa pensi che prendevo? Molto di più, 200 euro in più prendevo, quindi rimango al lavoro facendomi un culo della Madonna dalla mattina alla sera per 200 euro in più, ma non mi interessa, non mi interessa, capito? Però la mia fortuna rispetto a Gianni è che io ho tutta la contributiva di 42 e 10 mesi, contributiva, 42 e 10 mesi, perché ho iniziato a lavorare a 17 anni assicurato. Se Gianni avesse iniziato a lavorare a 17 anni che ha iniziato, però assicurato, con la contributiva, quindi con contributi versati, oggi poteva dire signori belli, arrivederci, buon viaggio, perché faceva la domanda come lavoratore precoce e se ne andava col massimo, ma se lui non raggiunge 42-10 mesi, che li lavori o non li lavori, ma deve raggiungerli, ok? Quindi anche in questa maniera rientra, fa, cioè li deve raggiungere 42-10 mesi, se no 38 anni di contributi versati, sono 900 euro mesi, li prende mio zio, li prende un nipote che ho, si è fatto fare i calcoli mio fratello che ha le stesse patologie di Gianni, forse Gianni c'ha qualcosa anche in più. Capito? Non c'è niente da fare, quelli vogliono 42-10 mesi, se no non ci puoi andare con la contributiva, al massimo, capito? Per avere il massimo della pensione, se no niente. Sì, scusa già, è vero che c'ho uno stipendio, 1500 euro, Claudio, però anche quello non è dignitoso, perché uno che si fa a 42 anni di pensione, di lavoro, che viene sfruttato a vita, perché in realtà viene sfruttato a vita, 1500 euro non è uno stipendio dignitoso, dunque non solo la pensione è dignitosa, ma nemmeno lo stipendio è mai stato dignitoso, perché non è possibile. Tu pensa allo stipendio che prendono quei battaglia, quelli sono stipendi dignitosi, ma non esattamente di quelli che mantengono in piedi l'Italia, perché siamo noi, operai, lavoratori manuali, che manteniamo in piedi l'Italia, l'abbiamo sempre mantenuta, loro invece l'hanno sempre sfruttata, questi delinquenti battaglia. Buonasera anche a lei, avanti Gianni. Buonasera a tutti, buonasera Claudio, buonasera Giulio, buonasera Gianni. Oggi sei ed entrato con un argomento infuocato. Ciao Gianni, un prefetta, buonasera, ben sentito. Buonasera, ben sentito. Ehi, così è, nessuno sta dicendo il contrario, per carità di Dio. Lo conosco benissimo, molto molto bene il lavoro che fa Gianni, non che faceva, che fa, perché tuttora lo fa, anzi forse è andato un po' a migliorare, ma inizialmente era un lavoro proprio veramente da tipo palai piccolo, perché in quella maniera lì è così, e tutti siamo così, caro Giulio, è proprio così, sfruttati per niente. Per avere uno stipendio, se tu consideri che un mio dirigente prendeva 6.000 euro al mese, stando dietro la scrivania, è sempre un telefono, sempre un computer, e io sotto le sue, come le vogliamo chiamare, direttive, 1.730 euro mesi, fendiamo un culo così con 30 persone alle spalle. Hai capito? La realtà è quella. La realtà è quella. Però io ho avuto la fortuna che non conoscevo neanche, sino a quando mi sono arrivate le carte a casa, io non lo sapevo neanche. Ho avuto la fortuna che dove ho lavorato mi hanno assicurato. Nel 1979, capito? Cioè nel 77, nel 1977, perché nel 79 sono partito militare, avevo 62 settimane lavorate e quindi sono rientrato in quella che è la legge del lavoratore precoce, altrimenti non ci sarei potuto andare neanche io, perché come lavoratore precoce danno 24 mesi, capito, di anticipo. E io ho detto perfetto, inseriamo questo, l'azienda mi sono accordato, mi hanno pagato per andarmene, perché se no mai sarei andato, mi sono accordato e sono riuscito ad andare via 2 anni prima, però con 42 e 10 mesi, e quindi raggiungo il massimo della contributiva. Ma così già no, i sindacati hanno invaso i miracoli, a me che puoi già male leggi i sindacati, no? I sindacati ti inseriscono, ti proteggono, ti mettono in quella direzione che secondo loro può essere un'alternativa, ma non è che possono cambiare le leggi. Assolutamente no, purtroppo è così, legge sbagliata, però è così. Ciao Gianni, ti passo Giulio, avanti. Ok, purtroppo è così, il lavoratore è sempre stato trattato male, sempre. Da tutti indistintamente, di tutti quelli che hanno amministrato, per cui non sappiamo, è chiaro che noi ci arrabbiamo perché a un certo momento non è che ci fa piacere essere sfruttati in questa maniera, per carità, non so io. Tu basta pensare solo a cose, io non mi dimenticherò mai di un comizio una volta che c'era in Piazza Italia, io ero un ragazzo allora, e c'era un certo Polano che faceva parte del Partito Comunista, quello chiaramente ha detto, ma voi siete uomini liberi, tutti quanti veniamo considerati uomini liberi, ma voi vi sentite uomini liberi? E allora se siete uomini liberi, perché non vi fate un bel viaggio in giro per il mondo? Ce l'avete le possibilità per fare quelle cose? Questa dice libertà, chi ha le possibilità per poterlo fare, ma non certo voi lavoratori potete considerarvi uomini liberi nella maniera più assoluta, siete semplicemente persone sfruttate, questo lo diceva Polano, un vecchio comunista del Partito Comunista di tanti anni fa, per dire no, adesso non è che io voglio dire che i comunisti sono migliori degli altri, nella maniera più assoluta, ci mancherebbe altro, perché io ho sempre considerato tutti i politici, tutti uguali, tutti sfruttatori di popoli, cioè sfruttatori dell'umanità, ecco come l'ho sempre pensata io. Comunque, cosa mi dico? Avanti, Gianni, non me la testa. Argomento abbastanza spinoso questa sera avete scelto, eh? Ai, mamma mia. Ragazzi belli, ce n'è di roba sotto al tappeto, e ce n'è tanta, è parecchio brutta, perché poi una volta che si iniziano ad unire i puntini si scoprono cose assurde. Vabbè, meglio non entrarci troppo, se no guai. Avanti già. Ehi, vabbè, è stata tutta colpa mia perché comincia tu il discorso. vabbè, data la mia situazione stavamo parlando di quello, poi è stato Claudio, eccetera, eccetera, e si è formato proprio un discorso, dai, adesso cambiamo discorso, dai, non mi voglio bissare perché sono mancato troppo. Va bene, dai, riprendi qua. Ehi, già, io capisco perfettamente, e la chiudiamo, ma così, leggi sbagliate che sfruttano, però purtroppo è così, ci ho provato anche anni fa io, ed era la stessa cosa, lei deve arrivare a questo perché se no preme questo, ma lei deve arrivare a questo, non c'è niente da fare, se lei non arriva a questo, noi le diamo questo, e va bene, vuole andare, no, allora deve raggiungere questo, fino a quando non abbiamo trovato la soluzione, perché mi è arrivata la lettera dall'INPS con i contributi versati e il commercialista, perché sono andato da un commercialista proprio del lavoro, mi ha fatto anche i complimenti, mi ha detto ma hai letto qua? No, ho letto niente, ho visto sì, i contributi e leggi qua, qua c'è scritto 77, guarda la settimana che hai lavorato, 1977 assicurato con questa cooperativa a quattro muri di Porto Torres. Ehi, è giudito. E quindi adesso noi le facciamo la domanda al lavoratore precoce, ti inserisco come lavoratore precoce, ti metti d'accordo con la tua azienda e ti fai licenziare due anni prima. E così ho fatto già, però c'erano quelli. Allora sì, se no lascia perdere. Va bene, chiuso il discorso, è così. Ui, ui, ui. Caro Giulio, Gianni è a terapia perché ha una cosa abbastanza grave. E io a 60 anni mangio via la sciatica, sono anche a dragina, come si dice in sassarese, ma non di dragina. E niente, anch'io sto facendo delle punture, oggi la terza, un po' sto meglio, ma niente di che, non sto andando da nessuna parte, sono nervoso addosso con tutto quello che ho da fare, che Dio ce ne scampi liberi, e niente, è così, e anche quello ci voleva, riprendi. Claudio, tu, cambiando discorso, vabbè io, a me mi hanno dato una nuova terapia che mi sta facendo bene. A una gamba non sento più nulla, non c'ho più nulla, all'altra mi è diminuito ma parecchio. C'ho sempre un po' il dolore, però non è più come prima. Ti stavo dicendo, domenica lo sai che a Bancari c'è la gara dei cani, sì? Sì, me l'ha detto mio genero, ma io già non ci posso andare così. Sicuramente verrà lui, mi ha detto già, ci vediamo sabato intanto. Domani, sabato, no, domani sicuramente verrà a cena. Si metterà d'accordo per prendere a Filippo, tanto l'ho portato già a lavare tutto, a sistemare, sicuramente verrà lui a prendere a Filippo, non so se lo fa gareggiare, cosa fa, ma io non ci posso andare già, ci posso andare perché davvero, cioè, se non sto manco guidando, sto uscendo col motorino perché è proprio la gamba sinistra della frizione, mi fa un male allucinante, e quindi sto uscendo col motorino piccolino per fare le commissioni. Ma se prendi aria, non a te, cicla, che siamo tutti, che siamo molto grossi, abbassa anche un poco di freddo e ti aggrappa. Io sto al caldo, sono molto sdraiato e praticamente un po' si sta alleviando a questa gamba, però l'altra, una è scomparso del tutto, forse perché sono sotto effetto della medicina, ma da quando mi ha cambiato la terapia mi ha dato proprio medicine appositamente per le artrosi, capito? Servono per cose artrosiche e per chi ha la cartilagine consumata, proprio, cioè sono specifici. Sì, no, io sto facendo il toradol per come antifiammatorio per alleviare il dolore, e poi mi ha dato delle pastiglie particolari che se non me le ricordo il nome, sono delle capsule, ma anche abbastanza forte per via anche un po' di sonnolenza, Marini Ducas, non c'avevo niente, nulla c'avevo già, niente c'avevo, da quando ho smesso di lavorare un montone di garraggio ci ho diventato. Vabbè, capito già, non lo so, me l'ha detto Mario, sì, però non so cosa decida di fare, io non ci vado perché non me la sento, capito, non me la sento, però sicuramente lui ci va, porterà Filippo, come fa sempre, farà sì che porti anche l'altro, non lo so, vediamo un po' se riprende Giulio. Sì, ma la sto uscendo, dai, scusate, devo uscire, stavo appunto parlando qua con mia figlia, devo uscire, dai, ci sentiamo più tardi, se faccio fretta, non lo so quanto ci impiego, dai, ciao intanto Claudio, sono Tuni, ciao Gianni, l'altro Gianni, per cui se ci siete ancora dopo, quando rientro, già vi apro, dai, ci sentiamo nel prossimo, ciao. Ciao Giù, buona serata, dai, ci sentiamo dopo magari. Avanti Claudio. Ciao Giulio, dai, ci aggiorniamo più tardi alle prossime, vai un profetta. Mi è sembrato sentire la gente sotto. Claudio, ti mando il cane che deve gareggiare di un amico mio che sta addestrando, ha già preso eccellente come risultato la prima volta che ha gareggiato, adesso questa qui è la seconda volta. Che cane? Non passo le tedesche. No, io non passo le tedesche, mi piacciono, ma non lo prenderei mai. È morto anche quello di mio cognato. Il magnolo, se sti cani, se passo le tedesche sono una cosa allucinante. Va bene, va bene. E allora, Gianni un profetta, cosa ci racconti? Poca roba per il momento. niente di nuovo all'orizzonte per adesso. Tutto tace. Vediamo. Mi devo attrezzare col binocolo per vedere se si vede qualcosa di buono da lontano. Boh, e cosa vuoi che ti dica? Poi sei andato a Sirio, ti fai un giro. Roba di trappola qualcosa, ragazzi, per carità. Già mi è capitato di prenderlo. Non è malaccio, se la rete fosse stata più lunga, sarebbe stata già un'altra cosa, dai. Vabbè. Purtroppo è così, quando non ci sono altre cose. E così è quello che ci aveva, così anche giovane, anche quello che ci aveva mio cognato, così molto bello. Sono belli i pastori tedeschi, però ci hanno vita molto corta, che è morto, bello così era. Forse quello mio cognato era a pelo lungo, ma mi sembra anche questo a pelo lungo. No, non è a pelo lungo. L'altro che ne è morto era figlio di Hannibal, cerca Hannibal, è uno dei campioni italiani, eccetera. Ne è morto di leishmaniosi, praticamente era visto che non mangiava, l'ha portato al veterinario, gli ha fatto del flebo, e l'indomani quando è andato a guardarlo l'ha trovato morto. La stessa cosa era laica, uguale, una femmina eccezionale, cazzo le mancava la parola. Ha iniziato 2 o 3 giorni che non mangiava, beveva solo, ma poco. La notte c'era una bella cuccia, tutto col plaid, però non ha voluto, dice lo faccio dormire dentro, stavolta perché dentro non entrava mai, stava sempre in giardino, ma abbastanza custodita perché c'era la tettoia, la cuccia sotto. L'ha fatta dormire dentro e l'ha trovata dove l'ha lasciata addormentata, l'ha trovata morta la mattina. Chiamata Andrea, l'ha fatta portare via. Andrea Lurica è venuto, cazzo di domenica, 170 euro cazzo gli ha preso. E poi li buttavano in bruciatura. Si dice che a Parma li mandano, non lo so, non ho capito niente. Cazzo, 170 euro vola male. Aveva lasciato il foglio, come che lui, eccetera, eccetera, è andato all'ASL, ha fatto la cancellazione dell'anagrafe canina e poi gli ha praticamente sparato il microchip per il codice. Gli hanno alterato il codice del microchip e praticamente l'hanno dato il certificato di morte. Ma bisogna anche denunciare quando muoiono. Diciamo, stai scherzando. Il microchip e l'iscrizione alla caffè canina non lo puoi sotterrare per i cazzi tu il cane, no? Tu devi chiamare Andrea, gli lascia il foglio, con quel foglio che ti rilascia lui, che lui l'ha preso in carico il cane, ti dà il numero del microchip, tu devi andare all'Atla, capito, la veterinaria via Budapest, con quel foglio lì, loro ti annullano l'iscrizione all'anagrafe canina con quel numero del microchip e ti annullano il microchip e ti rilasciano un certificato di morte, capito? Ah, ecco, no vabbè, che ritirava Andrea Lurica lo sapevo, ma c'è anche quello che ha il cimitero suo a cosa, ma ti pica un bene di nato, 350 euro, poi devi pagare ogni mese, mi pare devi dare un tanto, ti fa la tomba, tutto qua, tu sei vuoi portare più di tutti i suoi tipi anni. C'è la tomba con la lapide, con la fotografia e tutto qua. No, mio cugino l'ha detto, gli aveva fatto vedere le foto quando stava. andata va bene, se gli ha detto l'Andrea ancora non gliela manda, però le dà il coso della teca della ceneri e ci mette la foto, se la tiene così, capito? Cosa ci mette lui? No, io faccio così come ha fatto mio cognato, ho fatto tutto bene, tutta la documentazione la metto dentro la cartella sua e me la tengo come ricordo quando toccherà a me, così avete voti, purtroppo è così. Si nasce e si muore, però il pastore tedesco è molto, molto delicato. L'ultimo anche, vabbè, a mio cognato, è successo a mio zio, anche a mio fratello. Il fratello c'aveva il Collie, il Lessi, la stessa cosa, Nerone, ma bellissimo caro, però lungo. È morto lo stesso di Smaniosi, capito? Sono dei cani molto delicati, nonostante curato dentro, non stava all'aperto, non prendeva acqua, niente, però è una malattia che questi proprio le, non solo il pastore tedesco, ma tutta quella razza lì, perché anche il Collie è il pastore scozzese, quindi è morto così. Ah, vabbè, vediamo questo randaggio che sento dormito, mi lascia ancora addormentato. Lo volevo portare presto perché poi c'è troppo freddo, se no c'è una giornata di merda allucinante. Avanti il buffetto. Bene, bene, bene, bene, bene, bene, si fa per dire. Vabbè, dai. A proposito di cani, un amico tempo fa aveva, anche lui pastore tedesco, e mi sa che non vorrei sbagliare, ma mi sa che se n'era andato anche lui per quelle ragioni lì. È una patologia devastante quella cosa lì, a quanto pare non si riesce a, come si dice, non si riesce a contrastare in maniera più forte. Poi vabbè, ci sono razze che sono più predisposte e altre meno, come i pastori tedeschi e altri cani lupo, chiamiamoli, dai. Il pastore tedesco ha anche problemi di otite, molto spesso di creare l'otite. Ma è anche, vi devo lasciare per una decina di minuti, visto che c'è Gianni, proprio fa due chiacchiere con lui, che devo mettere a fare la carne, mia moglie e te me la tengo la pressione, quindi la metto a fare io, vai, una decina di minuti e poi ritorno, ok? Riprendi tu più lungo. Ehi, aia, dai, andare, vai, gli fai il cuoco, vai, aiuta tua moglie. Allora, la resmaniosi è una malattia che viene dalla puntura della zanzara o dal papattaccio, quindi non è questione di razza, è questione di sfiga, perché se uno, per dire, lo tiene in campagna è più predisposto ad avere queste cose. O può succedere anche a uno che ce l'ha in casa, poi lo porta a fare un giro e lo pungono, e diventa la resmaniosi. E succede così, se si è sfigato non c'è Cristo che valga. Io ho fatto anche il vaccino per la resmaniosi, quindi lui dovrebbe essere, non dico del tutto immune, però è più difficile che si attacchi, capito? Ho capito, sì. Ho un amico che ha un labrador, praticamente questo cane era, aveva fatto tutto il corso, aveva fatto anche degli interventi, era un cane da soccorso, era una femmina, un cane da soccorso praticamente, aveva già fatto i salvataggi e purtroppo praticamente è stata praticamente dimessa prima dal servizio perché ha contratto questa cosa qua. E in pratica praticamente questo cane non era in Sardegna, era da un'altra parte. Ce n'erano diversi di questi cani qua, praticamente non so chi e non so cosa e non so quale istituzione praticamente voleva, non dico se voleva abbatterli, comunque sono stati messi da parte, non mi ricordo con quali intenzioni. Questo mio amico tramite un suo conoscente praticamente è riuscito a contattare questa gente che praticamente faceva la tramite per delle donazioni. E quindi questo cane insieme ad altri praticamente è andato a finire a dei nuovi padroni attraverso queste nuove adozioni. E questo mio amico praticamente è andato in Sicilia a recuperarsela, bellissimo il cane, è andato in Sicilia a recuperarsela, e anche questo cane era affetto da, insomma, purtroppo si è trovato affetto da questa cosa qua. E niente, adesso è sempre in vita, chiaramente tenuta sempre in costante controllo, adesso chiaramente non fa più la vita attiva di prima, e niente, insomma, tutto qua. Comunque dai, il fatto stesso che sia capitata, che abbia trovato una nuova famiglia, già una cosa buona, dai. Vabbè, sempre meglio di farla abbattere, di farla ammazzare. Quindi lui l'ha presa già che aveva la vespa Newsy. Sì, credo di sì. Credo sì, che fosse proprio lui l'ha presa nella fase iniziale. E comunque il cane non poteva più prestare servizio. Adesso non mi ricordo se era un cane della protezione civile. Comunque, un bel cane. Poi vabbè, il Labrador già lo sai, per certe cose si prestano, poi sono indicati per situazioni del genere. E niente, l'ha presa e se l'ha portata qua. E niente, stanno ancora insieme. Guarda, diciamo che la Vespa News si è presa il tempo, con delle pastiglie riesce a curarla e a tapparla più che curarla, perché non si sparisce, però ci sono dei casi che poi gli sanguinano le zampe, lui, ma io ne ho visto certi di cani con la Vespa News, gli crescono le unghie in maniera sproporzionata, gli sanguinano le zampe, guarda, soffrono come proprio qua. Ce l'avevo un amico mio così, è venuta la Vespa News, è uscita tutto il sangue dalle zampe. Oh, è una questione di fortuna, hai capito? Se viene punto dal pappazzaccio o dalla zanzara infetta, li contagiano le Vespa News. Quel mio amico ci aveva praticamente il figlio di anima di un campione italiano, l'aveva pagato 1700 euro per pastore tedesco, figurati. L'ha trovato la sera che non mangiava, l'ha portato al veterinario perché era tutto mugio, non si voleva alzare, cose. L'ha preso in braccio, l'ha caricato in macchina, l'ha portato al veterinario, gli ha fatto un flebo. Il domani è andato a vedere se era morto. Lo so, non sono cose belle quelle lì, dai. No, insomma, se ne vorrebbe fare a meno, come tante altre cose. Niente, purtroppo bisogna sopportare anche quelle, dai. Lo so, io guarda, il cane ce l'ho, e per me è come un figlio, lo tratto divinamente in tutte le maniere, lo pulisco, lo lavo, ogni volta che sale su da quando lo butto giù lo pulisco con le salviettine umidificate, con le antiparassettarie profumate e tutto. Lui non ha odore di cane, ha odore di profumo e basta. Odore di toilette, dai, toilette nel senso di toiletta, con la finale di toiletta. Sì, immagino, certo, ti capisco benissimo. Giustamente bisogna dargli grande rispetto come meritano, giustamente. Te lo faccio vedere il mio cane, ti piace, verrai. È bellissimo, non perché sia mio, ma tutti ve lo dicono, è bellissimo, c'ha un muso che è una favola. E io il mio l'ho comprato così, l'ho visto su subito.it, e praticamente il mio è uno shampoo cinese, non quell'americano che c'ha il muso grosso, no, è proprio lo shampoo ratta base. Poi quell'americano l'hanno incrociato gli americani con Giorgio, e quindi è diventato così, col viso grosso, eccetera eccetera, però il mio è proprio la rasta base, praticamente qua non ce ne sono. Adesso mia figlia da Bologna me ne ha mandato uno che è uguale identico a lui, però è maschio lo stesso. L'ha visto legato a una panchina, deve essere il padrone, l'ha legato per fare qualcosa e lui gli ha fatto la fotografia, ma l'ha mandata da Bologna ed è preciso identico a lui, stesso colore, uguale. Registrato il break, aspetta già che c'è qualcuno, avanti. Avanti il break, avanti. Oh, mi è sembrato di sentire un break, l'hai sentito già? No, non ho sentito, ci sono degli splatter in banda laterale. Quelli li sto sentendo anch'io, ma era chiaro quello che ho sentito io, non mi sembrava uno splatter. Io non ho sentito nulla, sotto fondo magari qualcosa si sente, ma no, niente di che. Hai mandato la foto? No, ancora no. Ah, scappa, ok. Sto a prenderti una cosa adesso, mi sfugge. Un mio carissimo amico, quasi, chiamiamolo fratello di latte, non di sangue, fratello di latte, aveva trovato un cucciolo di boxer, era una femmina, l'ha tenuta per tantissimo tempo, poi ha trovato questo tizio che aveva un maschio tigrato, che però praticamente questo maschio tigrato era lo chiamano il boxer antico, perché ha il muso molto corto e le mascelle molto, molto larghe rispetto al boxer classico. E niente, li ha fatti accoppiare, è nata la cucciolata, insomma, lui se ne è tenuto uno. Praticamente tu devi vedere questo cane, il cane che ne è uscito, cazzo, era impressionante, è bellissimo, è uscito questo cane con questo muso cortissimo, schiacciato, cazzo, con delle mandibole proprio larghe, poi aveva questo petto proprio il capitorra bellissimo, indovina come l'ha chiamato, Magnum, cioè è uscito questo cane, guarda, già favoloso, cioè ogni volta che mi vedevano per strada, sia lui che la mamma, cazzo, a distanza di metri, cazzo, gli mollava il guinzaglio, cazzo, partivano questi cani, finché non mi riempivano di baba mi mollavano, cazzo. Lo so, sono così, i boxer hanno un bel carattere, Taggio non è così, non con tutti. Sì, magari, non conosco la razza, quindi sì, il boxer come il Labrador e il Golden Retriever, lo so, sono quelle razze giocherellone, dai, gli piace molto giocare, poi lo vedi anche, insomma, quando li vedi in giro, la gente quando vede un Labrador, un boxer, proprio si gira subito, cioè non può farne a meno. Quando vedo le mie si fermano tutti quanti, ah, quanto è bello, uno ti parla col ragazzo, quanto è buono, si è tutto baciato, e allora si faceva, però adesso è un po' più diffidente, capito? Non si fa toccare da tutti, sceglie lui le persone che vuole. Certo, mica sono stupidi, sono abbastanza intelligenti e sensibili. No, hanno tutto il carattere suo. Ho visto, mi è arrivata la foto, aspetta che la guardo. Attenzione collega, se ascolti Italia, Nord Italia, fa chiamata e si sintonizza in ascolto, brecco. Attenzione alla frequenza, la città di Sassari, Nord e Sardegna fa chiamata e si sintonizza in ascolto, brecco, va. Lucofera, ci sei? KK, sì, ti stavo lasciando il capo libero. Ah, hai visto le foto? Ne ho aperto una, bello, bellissimo. Bello, simpaticone, c'ha una bella espressione. Apri l'altra che lo vedi intero. Sì, è un bel cane, un bel simpaticone. Sì, c'ha la faccia proprio da simpatico. Sto dicendo, non li posso portare in giro che si fermano tutti adesso, però non fa, perché lui va a pelle, con un certo fanciullo, tipo è venuto un amico stamattina che non conosceva, gli ha fatto le feste, te li baci, certe persone proprio le ringhia, le saltate e si fa proprio devi stare attento, capito? Perché va molto a pelle. Sì, vabbè, loro sono abbastanza sensibili riguardo a questa cosa qua. Riescono anche a percepire lo stato d'animo delle persone, cioè ecco perché con alcuni sono più predisposti e con altri no. A me è successo diverse volte, anche con cani insomma abbastanza particolari. Adesso mi ricordo praticamente sono andato a casa di questo amico e praticamente aveva un labrador nero, un maschio, che era incrociato con un altro cane simile fuori Italia. Ma tu devi vedere questo cane, immaginati un labrador insomma di pezzatura media, incrociato con un cane simile, ma era quasi grande come una lana, cioè bellissimo, nero, lucido, aveva questo pelo lucentissimo. E praticamente quando sono entrato in casa mi è venuto incontro con la pallina da tennis in bocca e subito scodinzolando. E l'amico mio mi ha detto: guarda, tu sei uno di quei pochi rari casi dove il cane si prende la pallina in bocca e scodinzola, perché generalmente queste cose non le fa con nessuno. E quindi capisco quello che dici. E lui praticamente non sai cosa voleva lì, voleva giocare con la pallina, voleva ripulire la lanciarsi sicuramente, voleva praticamente fare amicizia in quel modo lì, capito? E i cani sono intelligenti, c'è poco da fare. Si è avvicinato un tipo tutto tassato, quindi poteva essere la persona più brava di questo mondo, non aveva l'apparenza di uno di quelli, ma sai, sono andato a carettarlo, wow! E dice: già c'è poco cattivo, non ti sto facendo niente, no? E lo so, però è un cane particolare, c'è il suo carattere, così dice: vabbè, non lo tocco più allora. E scicandosi, poi è andato a riprovarsi e dico: wow! Ho detto: no, no, non ci riprovare, perché sennò poi ti salta addosso, è un chio. Già, immagino. Sono molto intelligenti e molto sensibili, quindi si accorgono subito chi hanno di fronte. Ti volevo dire un'altra cosa. Anni fa il meccanico da cui praticamente mi servivo, dove portavo la moto, aveva un mastino napoletano, cazzo, enorme, gigantesco. Tu devi vedere i ciugani, ormai anche lui lo stesso difendeva il territorio, praticamente quando arrivava tipo il corriere, un furgone o insomma qualche macchina all'interno del cortile dell'officina, vedevi lui che faceva praticamente la piantone, poi arrivava il postino o roba del genere, cazzo, non si avvicinava, cioè proprio ero entrato talmente in confidenza che come sentivo il rumore della moto quando arrivava in officina, proprio mi faceva la scorta, mi camminava a fianco, cioè guarda, incredibile, una cosa allucinante, bellissimo, cazzo, abbiamo un capo, cazzo, variano i dreti di me, cazzo. Sì, solo che con questi cari hai sempre da temere, quando li vedi usci grusci, ui. Non le sento quello di Eugenio, il don argentino, cosa ha fatto? Quel pitbull che abitava vicino di casa. Si è attentato nel cancello di campagna sua e praticamente l'ha aggredito il don argentino e gli ha stracciato tutte le orecchie e più l'ha tutto gatto sbrandellato. Ha dovuto pagare anche il veterinario. Già l'ho sentito, già c'era anch'io in ruota quella sera. Cazzo, sono cani particolari quelli, hanno un imprinting molto particolare, giustamente loro, anche se in maniera inconsapevole, hanno quell'imprinting, quel carattere, quella consapevolezza, è come un atleta di arti marziali, cioè più o meno simile. sa di essere forte, di avere quella forza e quindi la usa, capito? È chiaro che non è un essere umano, però più o meno era un esempio giusto per capirsi. Non so se hai visto su Facebook di quel tipo che era con la ragazza, sono anche questi coloni, stavano rompendo le scatole, lo stavano picchiando, facendo, a un certo punto questo si gira, una sagamadu roba di una ventina. Cioè era un maestro di arti marziali questo qua, siccome erano in tanti potevano usare l'arte marziale. Una ventina ne ha buttato in terra. No, no, questa notizia qua non l'ho sentita, no, ho sentito tramite vie traverse quella, la storia di quella coppia, il ragazzo, quel ragazzo e quella ragazza che sono stati avvicinati da due o tre balordi e la ragazza si è difesa e ha difeso anche il fidanzato, mi sembra che la tipa facesse kickboxing o roba del genere. Vengo qua è il ragazzo che ha difeso la ragazza sai cosa faceva? Spingeva solo i negri che andavano ad andare addosso, quando lui si stava parlando con uno gli altri andavano per andare addosso e lui li spingeva per non farli avvicinare tutto lì. Poi lui pensava al resto, le rampava un intero, dopo l'altro andava a aggredirlo e rampava muraghissimo. Cioè, pezzi grossi, pezzi massicci, cavolo, va a farli di B, di tutti di più. Li ha lasciati tutti sagramati in terra. E dopo appena che se ne è andato. Me lo posso immaginare, secondo chi hanno beccato già se l'hanno messo il vino in fresco, quindi già mi immagino cosa possa essere successo. Un maestro di arti marziali hanno beccato, non ti dico altro. Pure maestro, non era solo un coso, un alunno, era un maestro di arti marziali, quindi era un insegnante proprio, quindi tu ti puoi immaginare che ti bloccava le mosse, tu devi vedere, gli andava a dargli il pugno, glielo bloccava, gli girava il braccio, che lo faceva cadere in terra e tu gli avvali di più, tutti di più. Faceva certe mosse che manco ti immaginavo. Roba seria come si dice, già l'hanno trovato. Hanno trovato, come si dice, adesso non mi viene quel modo di dire, comunque dai, hanno trovato la persona sbagliata nel momento sbagliato. Sarebbe buono, lui viene in fresco. Eia, ma sotto siete gente in banda laterale, no? Ci deve essere propagazione, proviamo a andare, tu non ce l'hai forse. Parolone, no, vabbè, era giusto, sentivo a brutto, quindi sembra che sia in banda laterale. Sì, e così sono in banda laterale. E qui non c'è di propagazione, se no avremmo fatto qualche di ex. Stamattina ho acceso, stamattina c'era insomma un po' da brutto, molti spagnoli si sentivano, qualche francese, ho provato ma non ci sono riuscito. Attenzione buon amici, qui ti lì della Sardegna, chi fa pelli, sia la stazione del Tacomeo della Ville Sassaria, avanti un amico. Ieri sera anche, mi sembra, quando c'era Massimiliano che c'erano degli spagnoli sotto. Questo è banda laterale, aspetta un secondo solo, aspettami un attimo per vedere come sono. Cappa. Oh, se la a girare non c'erano più. Ma devono essere sicuramente, è banda laterale, perché dalla modulazione è banda laterale. Quindi non c'era nessuno? No, su questo canale perlomeno no, a meno che siano sotto i canali stanno splatterando. Può essere, perché insomma un po' di rumoraccio già si sente, dai. Perché molti usano mille parti, in Germania e poi attaccano lineari allucinanti. Quindi ti puoi immaginare, ti splatterano i canali. Cazzo, allora se usano potenza del genere io dove voglio andare, cazzo, con 4 watt. No, guarda che con 4 watt tu puoi fare 10 ugualmente, quando c'è propagazione è come se fossero sotto casa tua, capito? Potresti farlo benissimo il 10. Capa, sì, quando ci sono le condizioni favorevoli, certo. E ancora non si sono presentate, dai. Eccomi, ciao, dalla primavera all'estate. Solitamente ci sono modi in estate, ce n'è un bel. Qui si è messo il 45, si è tutto canto, era voluto dei camionisti che fanno le chiamate. Attenzione, binario 45, ascoltate, criminal, c'è questo criminal che arriva, una bomba, avrà 1200 watt minimo. In camion, 1200 watt in camion. Esatto. Sono due lineari da 600 accoppiati, e guarda che ce n'è un bel che lo fa. Caspita, cioè, e che antenna c'hanno per poter sopportare la potenza del genere? Ci sono delle antenne che c'hanno una carica che sembra un boccione. Ci sono le antenne adatte, dai, che a parte che anche 1000 watt di regge anche a turbo 2001, quindi non è che sia, però ci sono antenne più performanti, quelle americane, quelle che hanno praticamente la carica che pare un buccione da carte grusse. Ho capito, sì, mi sembra di aver intravisto qualcosa del genere da qualche parte. Li senti adesso sotto già? Li ho beccati, hai capito, prof, li ho beccati, sono su 10, sì. Infatti adesso l'ho sentito che sono un po' più alti i segnali anche. Stanno salendo la propagazione, magari ci sentono anche loro a noi, Boh, ma mi sembra che siano in banda laterale. Sì, sono in banda laterale, però sul 10 in banda laterale, non è sentito. Ho capito, prova a bussare a vedere se ti sentono. Ma è una lingua buona, aspetta, non capisco se è spagnolo o che cosa, portoghese. Sono andato più giù, magari ti sentono e non ti rispondono. Kappa. Poi ho sentito che c'era anche del gente sul 3, non bassi, però si stia a parlare, però quelli in AM, non so se erano francesi o inglesi, boh. Ma guarda adesso. Eia. Proviamo a passare a vedere. Magari ci sentono parlare e ci chiamano. Eia. Hai capito? Magari ci sentono parlare e ci chiamano loro. No, ma quando c'è propagazione già ti chiamano, capito? Bene, bene. Allora, vediamo un po' cosa succede, dai. Io quando avevo l'antenna in macchina, dal quadrato, sono arrivato in Inghilterra, non ti dico altro. Caspita, la piazza dei segni. Esatto, in Inghilterra. Ho parlato con l'Inghilterra e mi hanno mandato anche la QSL a casa, sai cos'è? KK. E questo quanti anni fa è successo? Tanti anni fa. Tu immagina che ci sono una troppale frequenza, di qua. KK. Vabbè. Altri tempi sicuramente l'etere non era intasato come lo è adesso. Parlavo con Furi, con tante città estere, Germania, un po' di tutto. Eia. Sì, è un punto buono, dai. E se non vai a Usino? A Usino ti fai a beffa, fammi con Cagliari, tutte queste zone qua, Oristano, eccetera, tranquillamente, quando c'è propagazione. Eia, c'era un tedesco, non so se l'hai sentito, Sardinien. Adesso? Poco fa, quando abbiamo fatto un passaggio all'altro. Attenzione alla frequenza, la città di Sassari, nord Sardegna, fa chiamata e si sintonizza l'ascolto. Becco. Non sente nessuno. Vedi, solitamente quando c'è la propagazione già si sentono come se fossero sotto casa tua. Ti senti forte come senti a me, là. K. Ogni tanto di assare qualcuno più prepotente. Adesso poco fa mentre stavi parlando si sentiva il segnale forte sotto. E magari me lo attiro io, capisco quando parlo. È probabile. E sta salendo comunque la propagazione, vedi i segnali. Si sente una brutto, ragazzi. Vediamo un po'. Attenzione alla frequenza, attenzione alla frequenza. L'isola della Sardegna fa chiamate, si sintonizza in ascolto. Piccola. Hola, attenzione canale 10, ascoltate la città di Sassari Nord, Sardegna che chiama, cambio. Loro non le vogliono sapere. Ci stanno snobbando, dai. E se poi non gli abiti diverso, dai, mi diverto un po'. Via. I tedeschi come sono in modulazione? Tiriosi? Snobbano molto gli italiani. Ma ci sono gli italiani che sono cafoni, che li prendono piccoli, quindi capito. E io per dire dico Telefunken, Volkswagen, e lo dico ma che nome? Me lo posso immaginare. Io sono un po' così, dai. I tedeschi si sa come sono con noi, no? Un pochettino stravaganti, dai. Invece con i francesi andiamo molto d'accordo. Io faccio certe modulate con i francesi, che mi piace molto. Zone più o meno da dove riesci ad ascoltarli? Marsiglia, Lione, e Bordeaux, un po' da tutte le parti. Bene, tutte zone abbastanza vicine al mare, dai, quindi molto aiutate da questo, dai. Ma io c'ho il mare che c'ho di fronte, mi fa da specchio a me il mare, capito? Ce l'ho tutto libero. Io son favorito dal fatto che c'è il mare davanti. Certo. Quello aiuta tantissimo. Vabbè, io il mare non ce l'ho sotto la finestra, però già ce l'ho sponda tutta libera, dai. E c'è una zona centrale. Diciamo che io fossino a muro, scolato da lì, arrivo bene nella superstrada, poi i paesi un po' così, capito? Così, vabbè, arrivo, tutte corridore proaghe. Però poi quando si allontanano un po' i camionisti, prima mi sentono basso, poi lui dice che mi perdono. Però una volta sono arrivato a Urbia con la propagazione, mi ha sentito un camionista che sentiva solo a me. Caspita, a Urbia, giusto? Sì, al porto di Urbia, sì. È difficile, in Urbia è tutto montagna. Certo, è nascosta, tutta una crabace. È difficile, ma con la propagazione le onde passano da tutte le parti, capito? Certo. Ogni tanto vabbè mi distraggo perché sento questi sotto, ragazzi. Li senti che sono in chiaro questi, sì. Storia Nord Sardegna che fa chiamata, cambio. Non è chiara la voce, sicuramente sono in banda laterale ancora. Erano francesi quelli in banda laterale poco. No, quello che ho sentito io adesso è il tedesco. E allora sono in FM, provo per Io non ho l'FM, purtroppo, neanche quella. A Trinzandi. L'FM di lì stava in tedesco solitamente, però quasi tutti non ti fanno entrare, ti sentono ma non ti fanno entrare, perché sta chiamando la Sardegna e lascia e fanno finta di nulla, poi capito, lasciamo fermo. Ah così è, come mai? Perché tanto c'è qualcuno che li sfonde, capito? Quindi quando sentono gli italiani ti prendono la parolaccia e cose, capito? Ho capito. Vabbè, scusa. scusami, ma mi stavo mangiando un biscotto. Si sente. Oh, via. Questo vettore di sudore, mamma mia. Era solo l'effetto della medicina, mi sta facendo bene. Adesso sta passando. E di nuovo si sente il dolorino all'anca. Oh, via. Non esce più da chi sudore. Sta riacutizzando, no, vabbè, adesso sta passando l'effetto sicuramente. E allora ne ho preso due, una stanotte e una stamattina. E doveva essere tappato per un bel po', almeno 18 ore. Però a un'anca mi è passato completamente, a una non c'ho più nulla. E anche il ginocchio non mi fa più male, mi fa male solo il femore sinistro. Capisco, va bizzanti, come si dice. Ma io ho mai avuto dolori così, mai, non mi ricordo di aver mai avuto dolori così. Come si dice, con l'avanzare dell'età poi saltano fuori tutte le, tra virgolette, tutte le magagne e cose che magari sopportavamo prima, adesso magari non diventano più sopportabili, quindi non si riesce più a, insomma, i tempi sono diversi. Cos'è che io sì, da ragazzo ho sempre sollevato pesi, perché lavoravo in un centro commerciale e facevo l'autista, quindi scaricavo la roba, la caricavo. E diciamo adesso è più leggero il lavoro perché sono in pescheria, faccio vedere il pesce, ma prima era pesante, va pesante, ma tornavo a casa che non ce la facevo anche a muovere dai pesi che portavo. E quello lì con l'andare del tempo, lo sai come, no? Me lo posso immaginare. Me lo posso solo immaginare, pesanti, tosta. Cazzo, queste cose sono abbastanza invalidanti poi alla fine, perché poi, come si dice, la cosa ti presenta il conto e insomma, come mi stai descrivendo la situazione adesso, le cose non sono molto simpatiche. Sì, non so quante volte mi hanno detto, no, l'invidia 2-2, dico, l'invidia 1-1, gli autisti, mi diceva, da voi, quando si vanno come a me, ui, i dolori che ti viene, guarda che te lo sto dicendo per il barito, anche io facevo così, e mi ricordo sempre queste parole di un amico mio che mi diceva, da voi un fisico ti devo andare un gol. Sì. Parole sagge. Ogni volta che mi fa male mi ricordo questa frase che mi diceva un amico mio. Da voi un fisico ti devo andare un conto, vita di non cai, ma non fai impressa, cosa di una frutti, il fisico di cui fai, e non è così, no? Dovevi fare quello che dovevi fare, se non li rendevi ti mandava via. Certo, già conosco più o meno la situazione, il livello di pressione, quindi. Immaginati che noi avevamo, come direttore avevamo adoccato. Boh, lasciamo perdere, guarda, chiudiamo il discorso, dai. Avanti. Sì, no, volevo solo salutare che, scusami già, se poi è venuto fino, ci siamo trattenuti un po'. Scusa di che, non è successo niente, quindi no problem. Bene, Mela, dai. Avete risolto, sì. Ma così vedo c'è la propagazione che ha coperto. Quasi ti copre, Manzala, sta proprio coperto, Già non ho più lungo. Anche a me copre. No, a te non penso più. Se no ci aiutiamo. Oh, via. E beh, tu. E te mi contaci. Niente, mi stavamo facendo una chiacchierata con Tino e niente, adesso piego tutto. Sono sceso qui per prendere dei fili che mi servivano per domani. E niente, adesso tra un po' ne salgo. Tranco molto. Ti porti ogni volta tutto via. Ti porti tutto via ogni volta, parecchio, tutto qua. No, qui c'ho. Ho questo apparecchio omologato, che lo lascio qui e. No, ma sono sceso per prendermi l'attrezzatura da lavoro. Mi servono dei macchinari, delle macchinette per il legno che domani devo fare dei lavori, no? Però sono sceso qui e me ne sono prese. In garage non c'è spazio. E qui c'è la corrente. E a casa stazione te ne fai? Ma c'è l'antenna, solo che arrivava in camera di mia figlia. E io l'ho tenuto. Oh crepo, oh crepo Antonio. Poi è entrato, mi fa molto, che fa 2 anni, adesso ne ha 16. Con noi non ce l'avrei più. E quindi mi ha sbolognato, adesso devo trovare un modo di portare il cavo dall'altra parte della casa. E come fai? Ma Tintino, buonasera. Ah, l'ho crepato allora, l'ho crepato. Vabbè dai, c'ho i miei 6 watt, non hai capito? 6 watt. Hai finito muscolo, ti diventa importante. Aspetta, che sto scrivendo un messaggio a questo del tapirulano. Devo cazziarlo. E tu scrivi, ma quanto devo correre io per recuperare questi soldi? Sto pensando di fare poco stanotte, ti puoi immaginare? Ma tu dici, già sto temendo il fatto che dopo che funziona meglio di pulire a correre, ma si ha giù pure di pagare. È vero, è vero. Oh, Gianni, c'è un allenamento, c'è sì. Allenamento magnana. Adesso devo smettere di allenarmi di mangiare e allenarmi fisicamente. Ora a me mi scuri della bocca, ce l'ho a posto. E allora? No, già, peso quanto te, quindi. Io sono più basso di te, quindi ti puoi immaginare la fatta. Ma tu hai i muscoli più grossi e tutto grande, c'è anche un po' di muscolatura. E anche qualche chiletto di grasso in più. È per quello che lo chiamano muscolo. Io adesso sono arrivato a 103,4. Mi sono pesato stamattina, 103,4. Scusate, finisco subito la mattina. Dai già, riprendo subito. No, io che Giulio ha chiuso, se no andavo a fare la vedere e facevo una mappia all'altra. Senti, la propagazione. Cavolo, ma la vedo, io lo sento a bomba qua, eh. È arrivato a Santiago Lopo. Ma Antonio! Sta andando e salendo, 3, 4, 5. Ma poi mi sono messo la porta a piattino, fai riprendere. Chi c'era là? Sei tu e l'altro chi è? Già. Gianni Lubrofetta, avanti Lubrofetta. Ciao Antonio, vai. Sì, stanno facendo prepotenza, sono sempre più forti. Ciao Antonio, sai che sono di passaggio, che sto uscendo di nuovo. Ciao Antonio, ti prendi? Era Giulio, era entrato Giulio. Dove sei entrato Giulio, Antonio, ti ha salutato? Sì, stavo parlando anch'io. Ciao Giulio. Ciao Antonio, 9 più 5 qua, radio a bomba, va benissimo. Caspita, un pezzo di antenna, non sono riuscito neanche a metterla tutta. Ma cos'è stato? L'antenna che hai costruito? Ho fatto un pezzo, lì, sì e no, ne ho fatto un pezzo, sono mollata e adesso è un po' precaria. Ah, ok. Allora, ti saluto Antonio, sto uscendo di nuovo, la sera appena rientrato sto uscendo di nuovo, mi hanno chiamato di nuovo. Ci sentiamo, dai, scusate la gamba tesa. Ciao Gianni Sassari. Non c'è problema Giulio, vai tranquillo, siamo qua, quando vuoi siamo qua. Dai, buona passeggiata. Avanti Gianni Lubrofetta. Anto, che radio stai usando? Non glielo dire. Ciao Giulio. Ciao Tino, dai, sto uscendo, chiudo. Giulio, ci risentiamo alle migliori. Mi hai detto già? Ho detto, Antonio, che radio stai usando? TS50. In stampatello cosa vuol dire? Non ho capito di stampatello. In stampatello che cos'è? Di cosa stiamo parlando? Che marca è? Che cos'è? Ah, è un Kenwood. Ah, K, ecco. Ok, capito. Sì, proprio K. Poco fa hai parlato di scatoletta, di sottiletta. Beh, rispetto agli altri, questa è una sottiletta, è la versione più piccola che ha fatto con la casa. Ho capito, roba di brutto, si intende sotto. Se chiude la porta e apre la finestra. Attenzione alla frequenza, lui della Sardegna che fa pelli, sia la stazione del Tarromeo della Ville Sassaria. Va mon ami della France, si chiude la stazione del Tarromeo della città di Sassari, della Ville Sassaria. Attenzione, ho la Francia, mi ascolti. Bonsoir mon ami, che retorno? Attenzione, vai, lo francese, il cutto non va. Io ti accuto tra me e una mia, va pure ciò. Ma formaggio vi serve? Sì, se non va, le cartofole. Purtroppo francesi buchi ve ne so, Ma sono in banda, non l'ho ascoltato, aspetta. Oh, il vero Abruzzo, io non ne confermo più nulla. Adesso sta con la calza, ma lo so col positivo. Col polo caldo. È fortissimo questo, No, ho detto di stare calmo, dice che un attimino, ho detto, tu mi, mi stai disturbando, io ho questo locale e devo stare anche zitto. No, davvero, secondo me c'è qualche baracchino scacciavitato questo. Sì, ho cacchi di Nerone. Sacro, attenzione che ho con la France. Cioè tu pensa, è in banda, ma già qua sta arrivando 995, ti puoi immaginare? Io non sto scherzando, che la sua nuova che si avrà modulo. A me? Io ti fai a me, a te. Ma a me, ma a moi, muovi mi, ma stai scherzando, cioè fammi capire. No, perché sennò mi incacchio. Adesso mi sembri, mi ricordi me quando ero in campagna tanti anni fa con Luigi 2001 di Domenico Peroncino sotto il letto, con la prova importante c'era la lampadina LED, la lampadina al neon di camera di mia nonna che diventava fosforescente. Perché mi ha fatto io se mi sono bravo, quindi mi incacchio, aspetta che cambio, dai. Nulla ne sai, riprendete ragazzi. Ehi, ehi, dai. Non so cosa dire, mi avete colto in flagrante, stavo guardando il telefono. Santa pazienza, mi fanno incazzare già, mi vuole sovramodulare il francese, che capisco qualche uno di Sassari, ma in Francia, dalla Francia qua, insomma. Ma hai in corsi, che sono due passi, è un tiro di valla. Vabbè, a te ogni caso ti faccio girare il baracchino un'altra parte. Ma non hai visto che l'ho avvitato? Non vi va più come prima. Ho avvitato, perché lo sai perché l'ho avvitato? Però un cazzo di cavo 213 lo faceva girare. L'ho bloccato tre volte, dice, ma cosa fa il fatto? Aspetta, e dovevo girare l'antenna. Attento Gianni, lo profetta. Ehi, già sono qua, è una bulotta, non si comprende nulla, ragazzi. E a noi non ci senti? Sì, ogni tanto c'è un segnale potente che quasi ti copre qua. Di nuovo? Attenzione, mon ami de la France, continua. Qua mi arrivano 9, 10, all'Antonio ogni tanto proprio lo copre di brutto. Ah, hai detto bene, Antonio, pensavo a me, ho capito. Ho l'amico della Francia, lui mi chiamo Giartino Muscolo, mi. Attenzione, amico della Francia, io cambio canale, che già mi stai disturbando in questo locale. Se no telefono a Claudio, ci mettiamo in due, Vai a FM e mettigli la portante. No, anche la M, usiamo bene. FM scaglia bene il finale, perché non usi il modulatore. Allora, aspetti per sentire FM per la parola. Oh, ce l'hai le FM, sì. Che domande fai? Non è che tu sono una fatica della mattina, ce l'ho le FM. Dove ti va lì? Cosa c'hai? Io ho il BMW 580, ce l'hai la quinta? No, meglio punto. Vabbè, vai a te, ma io vai. Ci vediamo nella settimana, dai. accendo il fuoco ci metto la mano. No, fai importante la manetta. Non so se Gianni è uscito secondo te. Boh, ti ho sentito in FM, ma boh, non so, ogni tanto c'è un segnale forte qua che arriva di botto. Lo so già. Vabbè, quelli basso. Purtroppo catturano, io li posso anche annientare chiudendoli, ma poi va a chiudere anche a te, capito? No, vabbè, io in FM sì, sono sicuro che è uscito, ma Antonio l'hai sentito in FM? Boh, non lo so, se, qua c'è, qua senta brutto, quindi per me praticamente tutta la mattina si goza. Cara amico mio, ti devo dare una brutta notizia, aspetta che ti accendo l'altro. Io sono sicuro che in questa grande città, Maronna mia, stava più vita. No, se ti prendo male in coma, se ti fa vedere in donna, io faccio un po' fuori. Io ho parlato da solo, Gerardo. Sì, io sono ancora qua. No, non ho capito niente. Ha detto che stiamo parlando tutti insieme, io a me non mi risulta altro. Che cosa? Ti parlo sopra di Tino, già. Tino, qua. Tino deve essere qualche altro carabine. Tino! Eccolo qua, eccolo, mi senti adesso? Ma eri qualche altro canale. Stavo accordando, accordando. Cazzo, mi stavi sblatterando, ho sentito a Gianni. Addirittura, sei un buon sul 38. E mi stavo incolpato che ti stavo sopravvolando, ma ti immagini? E parlare di Gianni che ti stanno avanti, parlate sopra. Vabbè, stavo dicendo che... sappi che l'estate sta arrivando, la propagazione si sta aprendo e tu avrai dei seri problemi ad ascoltarci. Come noi ascoltare a te addirittura. Invece la propagazione si aprivano le cosce. Io non sento più niente, avevi visto che arrivi 9:25 Radio 5. E non ascolti neanche a me, ma stai scherzando. Sì, perché c'è una risa che sta... Senti? Lo so, infatti si sente un po' di roba. Si sente Marisa, si sente il cugino che sta passando la moto usata. Lo so. Vabbè, abbassiamo appena l'amplificazione, vediamo un pochino. Ha migliorato? Ma si sente Marisa, però il vicino forse sta prendendo la birra, adesso la moto usata l'ha bloccata. No, l'ho sparato. Che selettività che fa parecchio, Gianni doppio room. Ma l'ha ridotto. Parla di sopra questo qui, aiuto. Ma io schiaccialo già, schiaccialo. Io non me ne ricordo negli anni scorsi propagazione così in questo periodo, Me ne ricordo ne state piena, ma. Ma già mi ascoltate a me, sì. Saturino ma riesco a soltarti. Allora non è un problema, basta passare a te. Saturo, metti, ma già ce l'hai il 747, metti per week, che è di lusso, guarda la grande con quello. Guarda a vedere, cos'è il 747 questo qua, guarda a vedere com'è adesso. Quello lì è. E allora, ma se mi dà la massima potenza all'apparecchio, Saturo, capito, perché è oltre 10 watt. Abbassa ancora già, che tanto non cambia, abbassa appena l'entrata. A mai da loco! Prova a parlare normale. Sto parlando normale, non ero di gingilli. Già va bene. Ma tanto è inutile che gli dai troppe volte di entrata, perché te lo tende a saturare. Guarda io, visto, vabbè, a parte che ho un bailano familiare, però l'entrata mi sembra che siano mezzo fatto, un fatto al massimo. Calma, e così mi sta dando 80-90 fatte, dai. Guarda, tu non ci crederai, poi ti rilancio un po', tu non ci crederai, a me portante bianca mi dà 50 watt, modulati me ne dà 100-110, ho fatto un video a Antonio, gliel'ho mandato perché non ci credevo neanche io, con picchi positivi in casa, cioè fuori dal normale. Ma non mi trovo quel Gigino Vulcano sicuramente, era quello del figlio, quello che abbiamo defiscato. No, no, no, questo l'ho comprato a Cagliari da un amico di Walter, un amico di Walter, capito? L'ho comprato, ma è l'apparato mio che gli manda i picchi in positivo e quindi lo fa andare, capito? L'ho provato con il, vabbè, con un HP 201, però portante bianca, poco più di 50, ma quando muti, secondo cosa muti, cosa dici, va anche a 110. E se lo provo col magnum che da solo 20 euro così, ma 20 euro mi cazzamente 20 watt così sarebbe un bel po', anche abbassandoli la potenza se lo fa schioccare forte. Il mio da mezzo watt, un watt, adesso non mi ricordo se è mezzo o uno di portante bianca, io farlo solo l'apparato, e un watt vai quasi a 15, quindi sicuramente è quello che lo fa spingere, ma va molto bene, solo che, solo in quell'apparato, mi dispiace perché l'avrei voluto mettere nel president, a meno che un amico si fa di buon cuore, ne registra un pochino le cose, con qualche strumentazione che ha conservato in cantina, comunque va, senza fare nomi, aspetta che rinancio mio amico Antonio, carissimo. È diventato sordo. Antonio. Eccolo, eccolo, ero lì, ero un posto, non sentivo niente, chi è che mi ha chiamato? Ero un posto, nel sotterraneo, vedi. Tu, sì. Sai che di cosa avevo dovuto fare io? Ascolta, dopo un accolto maschio. C'è il maschio, sono un po' fischiato. Cazzo, non mi posso avvicinare, a me non mi piace la vita con un microfono, ma dimmi. Ho detto, se vuoi un accolto maschio, per darti una mano. No, no, ovviamente sono qua, non posso essere un accolto maschio, sarei maschio. Ti dà una mano, il Lucano ti dà una mano. Ho mandato le fotografie del, come cacchio si chiama, prostat, non prostata no, aspetta, pro, cacchio si chiama, pro sport, ah, un bacio, un bacio, cazzo, un posto diventando vecchio, ci vuole una chiave. Ma non mi frega a me, aspetta che gli ho fatto le fotografie, te lo guardo al telefono. Un attimo, un amico della Francia, tornati di lingua, cosa stiamo facendo questi allocanemi? La sera del 38, o nel 40 non fa il gole. Tu che ti sei affarrato, Antonio? Un figlio francese che arriva per 30. Ah, vero? Ho sentito io. Ma lo senti? Io lo sento benissimo, come faccio? Mi ha detto troppo mi scopre la fine, non è più scherzato. Sta mettendo il soggetto mese. Sì, è forte, è forte. Si chiama Pro Soft Plus. E poi... Sì, un bacio, un bacio. Anche lo zoom del telefono, lo so un po', ok. E poi si chiama Proforma 450 CX. Ti ho capito, ma di cosa stai parlando? È un tappeto volante. Ma gli hai mandato il messaggio a quello? Certo che l'ho mandato, adesso vediamo quando le vedrà perché ancora non è in linea. Quello è già visto, mi ha detto me lo porti in sede, con 30 euro te lo guardo e vediamo cosa c'è da fare. Se viene qua c'è la, praticamente la chiamata, poi magari doveva rivenire, poi doveva cambiare, perché metto molto sicuramente, non è dal motore, ma potrebbe essere dai condensatori scarici, questa roba alle varie, della scheda, dal cervello della macchina, praticamente. Quindi è una cosa da testare lì sul posto e valutare, se ne vale la pena aggiustarlo o meno. Vabbè, se c'è stata male di qualche integrato, se lui sa che ha il difetto, questo è un grosso della macchina. È vero, vabbè signore dai, ho promesso a mio figlio di fare due tiri a pallone, quindi devo uscire fuori al parco a fare CR7 e lui fare buffo, quindi scusatemi, nel caso ci sentiamo più tardi, dai. Ehi, Anzu, vai a giocare, vai, così, ti allini. Mettere la scheda, l'automodulatore, dai, ci vediamo, ci sentiamo male domani. Appena è finito quello, sappi che ci sono in coda anche io, quindi, dai, ci sentiamo, fammi sapere, ciao. Ehi, ciao Gianni, non più, ciao Gianni, un profeta, ciao... Giulio, se stai ancora ascoltando, ciao Francesco che mi dai proprio mangiato il capo. Cappala, ciao Attino, ciao anche a te Anzu, ci sentiamo. Gianni lo profe, mi pare che Claudio si l'ha burumagnata la gara. Vabbè, suonata, cantata e ballata, dai. Va bene, ciao ragazzi, ciao, a stasera se coincide, se ne avete voglia. Ciao. Ciao a tutti. Sicuramente la gota l'ha fatta il freddare e dopo si l'ha mangiata a buco. Beh, credo di sì. Ciao Tino, ciao Antonio. Sì, ci aggiorniamo. Sì, sì, penso proprio che hai ragione tu, dai. Ho ragione, vabbè. Oh, buonasera. Uè, Eugenio, buonasera a voi. Sono francesi, mi pare. O dalla Corsica, solo dalla Francia, buh. Aspetta, che perché non c'era la banda laterale, andare a vedere. Ma finisco a Marcosi. Ciao amico mio, buonasera. Ben ascoltato. Ho difficoltà a sentirti perché ci sono i galli sotto. Oggi mi sono andato per dire... Se fa capire che sento più forte i francesi o cosa gioco? Lo so, c'è un bel aburuto. E qua lo stesso arrivano molto forte. Oh, io sentivo, ma poi manda la terra, ci credi? Cosa già? Che sentivo al profeta e manda la terra, stava dicendo che sentiva più forte i francesi. Chi l'ha detto questa frase? Gianni l'ha detto. Lo sentivo a manda la terra. Gianni! è così la mia radiolina fa anche in banda laterale, non sapevo. sì, di splatter ti sentivo in banda laterale, e questo splatter non imbizza, è proprio la propagazione che c'è sicuramente dalla fonte, la potenza in più, dai. E beh, Eugenio, i cani come stanno? Cani tutto a posto, tutto bene. Messo a posto quello là? Sì, a posto. Quella cucina, a posto. Cava, meglio così, dai. Noia. Casa mia figlia da Bologna me ne ha mandato uno che è preciso identico al mio, uguale, qua non sarebbe, non se ne trova, noi come il mio, uguale, preciso anche di colore. Cane che gli dobbiamo fare la già? Raga. Che lo devo fare? Io al mio ci tengo, non mi piace fare queste cose. No, io li faccio fare, ci faccio anche il commesso. Ti porto quello di un amico mio da farlo afferrare. Non sono così ricurve, ma un capo cazzo che pare di tre. Ma sai cosa c'ha? Aspetta come si chiama. Il dog de Bordeaux. Arriga, non c'è problema. C'è un tempo per il giorno. Ma non è puro quello. Cadi come il puro. Tu me l'avevi detto che era incrociato. No, è puro, è puro. Io mi ricordo che tu mi hai detto, non è puro, però è bello. Sì, io tu. È puro. Il mio doghino è puro, fidati. Ne hai uno solo? Sì, adesso sì, però sto cercando la... Ma come l'ho fatta entrare nella cerca? C'è la pelle? Due cancelli. Quando è entrato il cane là, quando è entrato il cane in corso, stavo controllando le cose, avevo il cancello aperto. Quel cretino del mio vicino ha lasciato il suo aperto, è uscito e è entrato là. Speriamo di sbagliare tutti e due, perché se vuoi che non ti scappi le cane devi stare chiuso il cancello, che poco di fa. Se non ti scappano, se vedono un altro cane vanno per non si scappa. Ma comunque manco uno me, ma sì, due, non sarà come il dog argentino, ma il mio è un cane da combattimento lo stesso. No, ma il mio non esce di casa, tu con la cerca ce l'ha preso, non puoi chiamare, non esce, se lo chiamo io viene da me. Ma se faccio il due, no, non si avvicina al cancello, lui rimane lì, è sempre dentro, dentro al cancello, sta preso, però non esce. Non so, io mi sento tranquillo, non esce. Ecco, non è sbagliata a entrare sul territorio, ma poco gli fa. Quello sì, è sbagliata a entrare qui. Vabbè, troppe, cosa mi dici? E allora, in mezzo a questa burrota adesso il segnale mio com'è? Cosa c'è? Anche se ci porti dietro le voci di cui ti scegli. Anche voi capita la stessa cosa, quindi adesso anche voi ci avete ospiti. Non ho capito quanto è il segnale. Quello di sempre, cosa c'hai attaccato? No, adesso ho rifatto il cavetto, però ho fatto le misure e l'ho scollegato per il momento. No, va bene, c'è a 5. KK, ok. Vabbè, ti credo doppio room. Gianni, doppio room? Boh, forse gli ha scordato il telefono. Ho cercato di pagare l'acqua. E allora già, lo dammi l'acqua. Amico mio, poca roba per il momento. Non ho grandi novità da raccontarti. Tu per il resto, al lavoro, tutto bene? Bene Mela, adesso insieme a te stava parlando uno spagnolo, ragazzi. La massa crescenda, cambiato il canale, il amico della Spagna, Cornelio. Forse Gianni manda laterale che sta facendo propaganda, dai. Allora figuri a Bruno Gianni manda laterale a comprare il tardi. Ho sentito molto forte, forse è lui. Che poi è lo stesso canale, sono su 10. Certo. Verso l'ora di pranzo la propagazione si è attenuata, però col passare delle ore piano piano è aumentata di brutto. Basta andare sul 20, io così non li sentiamo più. Gianni! Dimmi! Poi non facciamo su altro canale, se no lui ti ammazza. Anzi no, magari sentono anche a noi. Dai, che li uccidiamo anche noi. Io canale 20, se c'è propagazione c'è tutti i canali. Se vuoi andare sul 20? Ci allontaniamo un po', no? Andare. Eugenio, siamo sul 20. Oi. Una portante con quel Larsen potentissima, molto forte. Mi saliva sempre a 9 a me. Ce l'avevo anche io, 9, oscillava 9, 10. Hola. Avanti, hola. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera, buonasera. Ciao Daniele, ben sentito, ben rientrato. Buona, io non ho fatto neanche ascolto, non so che ci sia. Ci sono io, l'immenso, l'illuminato, il nuovo messia. Buonasera, messia. C'è il messia e c'è il profeta, buh. E noi che siamo venuti una gesa tra un poco, vabbè che siamo nel mese mariano. Io ci manca il chirichetto. Ciao Daniele, buonasera. Buonasera, io faccio il chirichetto, Aspetta, mi hai sovrapodurato a... come si chiama? È molto male dimentico. Eugenio. Ah, se mi sovrapodurato, addirittura, allora... Cos'è, stavi dicendo, Eugenio? Ho detto che ce l'ho pronta a sovramodularmi, Gianni, grazie. E allora, ma dimmi tu. Mi è scappato il dittino, dai. Cava, cava, ma ci è arrivato qua, già. Boh, eravamo... C'era Gianni, Giulio, Tino, Antonio, poco fa, e poi si sono spostati per fare altro, e quindi siamo rimasti io e Eugenio. Cava, cava. Va bene. Perché non sento nessuno, neanche gli splatter. Qua per adesso ho poca roba, Eugenio. A me mi sono pazienti. E chi sono? Francesi, spagnoli? Francesi, spagnoli ci sono. A me mi stanno facendo venire mal di testa. Cioè, ci sono momenti dove sale di brutto. Tedeschi, spagnoli, francesi, di tutto, beh. Adesso inizia il periodo, lì. Iniziano a farsi sentire. Ma da domani già cala la propagazione, che ha messo maestrale il tempo brutto, quindi la propagazione scende. Lo so, c'ha questi momenti, questi periodi alti e bassi. Speriamo bene che poi inizi le belle giornate a farci due chiacchiere. Sì, col bel tempo pure le propagazioni. Guarda, venerdì, quando era? Martedì, comunque in settimana, arrivava questo siciliano, forte, che sembrava sotto a casa di Gianni. Quando c'è bel tempo la preparazione funziona bene. Cava, cava, lo profe! Ehi, andare a Midotto! E tanto! Ehi, stavamo chiacchierando l'altra sera, sempre a livello ipotetico, sempre a livello di ipotesi, di se era possibile di provare a fare praticamente un confronto tra questa antenna che mi hai prestato ed eventualmente provare a sperimentare la Ringo per vedere che differenza c'è, ma solo quello, a livello proprio sperimentale. Si può fare, si può fare. Claudio mi stava dicendo, mi stava chiedendo effettivamente quanto misura la tua, perché lui mi diceva una cifra, però tu mi ricordo me ne avevi detto un'altra. Quale? La Ringo? KK, mi avevi detto che la tua era non arrivava forse neanche a 5 metri, giusto? 4 e qualcosa mi sembra che sia. Ma ci arriva vicino ai 5 o è 4 o è più 4 che 5? Una via di mezzo, non è altissima, non è altissima. Perché ti spiego, se tu guardi le caratteristiche che ho trovato su internet, proprio le istruzioni, ti dice una misura. Quando poi vai a misurarla effettivamente per fare le misure, non ci riesci, mi sembra che sia più corta. Capa, quindi è al di sotto dei 5 metri, è al di sopra dei 4, però al di sotto dei 5, così. Capa. Va bene. Eugenia, conosci la... cazzo, adesso mi sfugge, cazzo, dimenticatemi di Sogo. Affanculo a me. Come si chiama, Daniel? Ringo Boys. Sì, lo butta. Stiamo bene come antenna la Ringo. La Ringo è 4,30 mi pare, una cosa del genere. Eugenio, una cosa del genere, perché alla fin fine io ho preso le misure dei segni che ci aveva quando era piazzata prima, che restava più pulita, capito? Quindi l'ho fatta proprio a filo e non c'era a sbagliare. Ma perché ti impiazza la Ringo? Per Gianni che la prova. Gianni, cosa c'ha? 3 radiali, dice. No, senza radiali. Avanti il cucù. Buonasera a tutti, Marco. Per Gianni ti do qualcosa da leggere. Sì, allora praticamente la Ringo della LEM ha stravolto il progetto originale un po', no? Gli ha fatto una bobina più larga, forse con una spira in più, per cui non è la canonica Ringo da circa 5,50, gli hanno fatto più bobine e meno stilo. E c'è gente che, tra cui io, sono dovuto impazzire per riuscire a capire la lunghezza dello stilo o dove mettere il morsetto della bobina. Fine intervento. Buonasera a tutti, dai, sto mangiando. Vai Gianni. No, Marco, aspetta un attimo già. Marco, manda il numero di telefono di Gianni Rubro Fresca. Eugenio, io ho fatto casino con il cellulare, ho cambiato cellulare, schede, ho perso numeri, mi devo riorganizzare. Dopo controllo, a parte che ho le mani piene d'olio adesso, dai, dopo vedo. Ma il numero è sempre quello, è rimasto uguale, ti mando il mio numero. Vediamo, tu che numero conosci, di i primi numeri, metta il numero, dai. Aspetta, il cellulare, devo prendere il cellulare, aspetta. Oh, Bianco, un secondo, la bassa. Eia, Daniele. Eia, comunque Gianni, io con quell'antenna ho resistito un anno. Poi sono arrivato al collasso, proprio ho avuto necessità di cambiarla. Capa, ciao Marco. È proprio ma giusto a livello di levarsi uno sfizio, me. Cioè, visto che quella Daniele ce l'aveva montata sino a qualche settimana fa e insomma da lui funzionava bene. E quindi volevo provare a fare questo esperimento, volevo provare a piazzarla al posto della boomerang e vedere più o meno che tipo di differenze c'erano, capito? E niente, tutto qua. E io già. Beh, la boomerang è un quarto d'onda, a quanto hai detto è lunga 3 metri e qualcosa, quindi è un quarto d'onda full size, non caricato, no? Lo stilo. E quindi un quarto d'onda guadagna zero, in teoria 2 dB in più, 2 decibel in più, un terzo di Santiago in più dovresti arrivare. Questo a livello sempre teorico, poi magari entrano altre cose in gioco, non lo so. Per esempio la 5 ottavi dovrebbe guadagnare 3,15 dBi con la I finale rispetto al dipolo un quarto d'onda che guadagna zero. Oh, zero non vuol dire che non ti sentono, è un'altra cosa. Dai, è roba lunga a spiegare, poi non ne so. Marco, 017, i primi tre numeri. Ah, 347, 0, no, cambiato. Quello l'ho messo su un cellulare a tasti. Ho cambiato numero. Comunque se chiedi a Claudio ce l'ha. Quando lo sentirai fatelo dare. E ho fatto un macello con un cellulare, poi devo decidere quale scheda tenere, quale scheda sacrificare, capito? Oh signori dai, sono tutto imbrattato d'olio di pizza, riprendete voi, ciao. Ok Marco, sempre con le mani in pasta come si suol dire. E soprattutto mangiando a orari sì. Cioè l'ora di cena io ho pranzato praticamente, dai, ma non vi dico altro, ciao. Vabbè, comunque uno mangia gandoli biasi, quindi questo è sacrosanto, non siamo in caserma. e va bene così. Avanti OG. Vabbè Marco, quello l'ho cancellato, adesso come si è incontrato ti faccio il tuo numero. Già, il tuo numero mi serve. No, aspetta. No, Eugenio. Guarda che per telefonare è valido, però è su un telefono a tasti. Cioè, da chiamare per le telefonate è valido, per WhatsApp è un altro. Capito? Ho capito. Adesso te lo portato, l'ho già cancellato. Sì, vabbè, o l'uno o l'altro, mi non cambia niente. Dai, ciao. Eugenio, se vuoi il numero te lo do anche qua, a me, non ci sono problemi. Allora lancialo. Aspetta, lancialo. Dimmi quando sei pronto e te lo lancio. Vai. Allora, 3, 4, 9, 2, 1, 0, 3, 3, 6, 8. Ok, ti faccio uno scudo io. Cappalo, arrivato? Ok, dai, va bene, adesso me lo prego io. Ehi, dai, così me lo salvo e me lo memorizzo anch'io, dai. Così ti faccio vedere la radiolina che sto usando, dai. Pronti? Ci sei ancora? Sì, qua ci ho mandato la mia. Mila lì, ci è arrivato, tac! Sono scoccata, te l'ho fatta per me. Adesso sta andando bene, dai. L'ho vista adesso, bene meda, hai capito, con la tua parlante esterno che è professional. È un po' difficile preliminare. Se non ti bene, vedi che il mio è frequentimento, non è a canale. K, cos'è? La sintonia continua? Ehi. Che marca è questo qua? È un coso, un Galaxy Uranus. K, guarda che ti ho mandato il mio barattolino. Ah, sì. Ehi, già va bene, dai. Tutto fa brodo. 40 canali, volume, squelce e commutatore, buono vecchio. Sono i più resistenti, quelli che vanno meglio. Sì, già hai fatto dighi da maniera, a me, come si facevano i baracchini prima. Molto anni 70. A voglia, poi è giapponese, cazzo. Ci scrivo Kawasaki e siamo a Puccio. Ma chi è questo? Il sindaco di Porottore? Ciao, buonasera. Vabbè, genio, buonasera. Ma guarda, posto? Ma diciamo che a parte un po' di dolore, meglio di così non si può, dai. Prendiamola così. Ciao Gianni, anche a te mi sembra aver sentito Marco in lontananza, se non vado errando. Marco a bocca piena. Tu sei sempre a bocca piena. Ma che cazzo sono? Ma anche ti avvece a Questeglia. Oh signori, sentiamo dopo, dai, se vado un attimino, vi devo ascoltare un attimino. Sentiamo un attimino, sentiamo dopo, dai, ciao. Ciao Eugi, un abbraccio, ben ascoltato, buon fine serata e buon Toros. Vai già. Ciao amico mio, dai, magari ci aggiorniamo, ok? Grazie per adesso. Sto pensando ancora a Marco che è fuori di casa. E altro che quello abbiamo detto, però mi devo dare una calmata anche per il turpiloquio, anche in casa. Non va bene. Claudio già se lo ricorda, ma mi davo delle arie, diciamo. Ma sì, fa ridere, però non è roba da fare al baracchino. Ma vai Claudio. Vabbè Marco, vai, si scherza, non è che siamo volgari o qualche battutina ogni tanto scappa, dai, giusto per ammazzare il tempo, è chiaro che bisogna sempre stare nella, come si dice, nell'educazione verso gli altri. Per quelli che ascoltano, già va bene, dai. Senti Gianni Rubrofetta, che voice, the voice, proprio il numero uno della voce, della frequenza, senti con questo microfono, con la sua cuffia antisoffio, quanto è bello. Cos'è, le più 5? No. Questo non è, questa è roba professionale. Sto andando col 590. 590 della cable, del microfono è un microfono professionale della cable, sempre della cable, ma non è un MC60, non è un MC60, è un MC90. Sì, la modulazione, il suono è sempre quello, chiaro, potente, già si sente che è roba seria, dai. Ciao Daniele, buonasera, ben ascoltato. No, non è il mio, me l'hanno prestato per provare, avrà se no pochissime ore, poi l'ha messo dentro la scatola di un amico radioamatore, perché volevo rendermi conto se effettivamente la mia voce è sempre quella con qualsiasi tipo di microfono, infatti non si smentisce, perché lui dice guarda questo microfono costa, stai attento, 220 euro. 220 euro. Lui l'ha provato e mi ha detto: Claudio, da schifo, mi sono pentito di averlo comprato. E lì gli ho detto: fallo provare a me, vediamo se la tua voce o se è veramente il microfono che fa schifo. Effettivamente è la sua voce. Io mi sto ascoltando, è veramente molto bella, molto corposa, molto bella, molto bella. Una cannonata! Poi sto andando col digitale, figurati. Figurati, figurati, va bene, molto bene, ok. Adesso glielo dico e ne prenderò una delusione. Alla fine mi dice: visto che va bene a te, tieni il dito. No, no, ma no, non mi interessa. Il microfono è troppo costoso e no, non mi interessa. Io ho gli MC60, intanto non cambia niente. È la mia voce, non c'è niente da fare. E allora Daniele, che si dice? Ah, io spagnetti e baracchini se ti fai troppo brutto. Cosa ti abbiamo svegliato doppio? No, stavo guardando stazioni base. Penso di nuovo prendendo male. No. Solo già stazione base, non ce l'hai la base più bella. Più bella di tutti tu, c'è il Galaxy che continua a ribadire che per me è il più bel baracchino che ci sia in circolazione, io già li chiamo baracchini, lo sai come l'ho preso, con tutte le sue funzioni, con tutta la sua bellezza e con tutta la sua funzionalità. Quindi cosa andai a comprare? Vintage a farlo, sempre quello usi tu, lo so. No, io sto provando l'MC90, non il 60, l'MC90 col 590, quindi sto andando praticamente in digitale assoluto. Mi sto ascoltando, è veramente bella. Stefano invece mi ha detto che è uno schifo, usandolo lui questo microfono è uno schifo. No, Cla, se ti fidi è più forte del 60. Avete parlato in due, cosa hai detto Gianni? Ho detto di Gianfranco. No, no, è di Stefano. Ah, di Stefano, pure Stefano non c'ha la brutta voce, eh. Ma le corde vocali mie no, non c'è niente da fare per nessuno. Non c'è niente da fare per nessuno. Ok. Cosa hai detto invece tu, Daniele? Stavo dicendo, Cla, che se ti fidi è più forte del 60. Ma è la radio che spinge, eh. 590 in AM è una bella radio, molto meglio del 2000 in AM. Va molto bene, come dice il trasmettitore, in SSB è una favola, c'ha una sensibilità allucinante. Infatti ho chiesto informazioni a Walter l'altro giorno, mi ha detto che è una bellissima radio. Però in AM va bene, va bene. Ho fatto tutti i set in fase di sperimentazione e quindi sembra che vada bene, dai. Sembra che vada bene. Adesso vediamo un pochino. Avanti Gianni Lubroffetta. Sì, sì, confermo e sottoscrivo. È una buona, un ottimo risultato, dai. Vabbè, comunque 4,40 rimane sempre il mio 4,40. No, questo c'ha la cuffia antisoffio, quindi la modulazione è praticamente molto, non disperde, bella, bella corposa, mi piace come modulazione. E quindi già stai guardando vintage, qualcosa che ti piace di quelli dell'epoca? No, ho smesso perché non c'era nulla che mi piaceva, c'era la radio vintage, sì, però niente, c'era il courier che era bellino, ma in America non è ovvio, appunto, dopo te lo bloccano la dogana e li butti. Il courier io l'ho regalato a Gianni K2, c'era da sostituire le valvole perché praticamente non dava molta potenza e penso che l'abbia messo a posto e messo in vetrina, tutto in ferro della radio, sì, è tipo il Comstat 25B, 35B, però è un po' più bellino, dai. L'avevo dato a Gianni K2, penso che ce li abbia ancora, ne avevo dato più di uno, il courier. Poi avevo dato altri due sempre in ferro da sistemare, però esteticamente nuovi a posto, però da sistemare internamente. Mi ha detto che a lui le servivano come collezione, ha detto te. Oltre a distributto mi ha buttato un cofano di macchina una volta del radio. Ma ci fatti rubare rubicci. No, l'ultima volta che andato ce li ha tutte in vetrina, pulite, ordinate. Qualcuna funziona, qualcuna non esce, però lui le servivano per collezione, quindi gliel'avevo date. Ho dato anche la linea Alicraft, la linea HF Alicraft, lo stesso che ci volevano le valvole, se le metteva lui, la faceva funzionare lui. Basta che ti si bocca in tutto. Io non ne voglio più sapere, già c'avevo la casa piena di radio vintage, non funzionanti, funzionanti, armadi pieni, ho liberato tutto. Una bella parte l'ho data a Gianni e un'altra parte l'ho data a Roberto Quadrato anche. Io fosse stato per me questo mobile l'avrei riempito tutto di radio vintage. Fosse stato per te? L'avrei riempito questo mobile tutto di radio vintage, ma di quelle che mi piacciono, non una qualsiasi, mi devono piacere. Sì, già lo sai, io sono più malato di te, quelle che ero io erano tutte belle veramente, partendo da Royce, ho fatto anche il console 2, che era della buona anima di Mario Mao, che avevo comprato da Gio Maria, tutto a KP2 ho dato, mentre a Roberto gli ho dato il Sommer Camp, il 101 Digital, l'ho dato il TS700 della Kenwood, gli ho dato, e mi pare qualcosa anche della Alicraft, perché ne avevo una e mezzo di linea completa, e già, non avevo un Bemmi, ne avevo parecchie, tanto è vero che ho eliminato una base, perché non avendo più l'altra base, adesso le radio me le sono messe tutte come devono essere davanti, quindi solo radio amatoriali, baracchini non ne ho più, praticamente ce li ho qualcuno dentro l'armadio e basta, e boh, capito? Io là, vi saluto tutti che devo portare giù, se no adesso si è fatta ora, mi sta rompendo, stavo pugnando già, vedo tu i ghetti, poi applicato giù, vabbè là, ci sentiamo. Ciao già, io sono già rientrato. Adesso mi sono messo già la pigiama, aspettiamo a cenare, poi c'è la partita, Juventus Torino, ci vogliamo uno straccio di partita e poi alle 9:30 metto su Sky Atlantic che c'è l'ultima puntata di Gomorra, non la devo vedere perché mi ha guardato tutte le serie. Vai Daniele per i saluti a Gianni, poi vai per Gianni Rubrofetto. Capa Rogero, ciao già, alle prossime dai, buon proseguimento e buon tutto. Riprendi Rubrofè. Ciao Gianni, buona serata e buona passeggiata con l'amico a quattro zampe, dai. È proprio vero, gli amici a quattro zampe, mamma mia, vabbè. E quindi Daniele, eri assente un paio di giorni, lavoro? Sta facendo roba a casa qua, sto mandando due cosette, il 90% l'ho finito, per oggi basta, sono due giorni, ha preso questo cavolo di rivestimento di quella finta pietra, micla, c'avevo 2 metri di parete in altezza per 1,30 m di larghezza, l'ha fatto, e me lo stavo sistemando. Ah, io ho capito, ascolta, mentre invece il corso l'avete finito, com'è andata? C'era anche, mi sembra oggi già, che tra sede e casa ultimamente, forse ho perso 2 o 3 lezioni, mi sa. Quindi non ci vai, no, cos'è, a giugno forse sono quest'anno, dai. Mi sa di no, perché non mi sento pronto. Sono cose sì che sapevo, che ho studiato, ma piano piano devo ingranare. Sì, vabbè. Il compito è basato chiaramente domanda e risposta di elettronica, poi la cosa principale che loro ci tengono tanto è le normative, codice Q, una volta che sei le normative, se fai un errore magari in elettronica non ne frega niente, ma per loro la cosa principale è sapere le normative, quindi studia bene quelle e basta, intanto altre cose penso al corso non le state facendo, sono molto importanti le normative. Io mi ricordo nel lontano 1993 mi ero inceppato con stazione d'amatore, con stazione da radioamatore, mi ero inceppendo una cosa che no, ancora oggi mi ricordo, perché secondo me era la stessa cosa, invece non era la stessa cosa. e quindi fortunatamente a fianco allora avevamo i banchi, il compito si faceva adesso a banchi singoli, mentre prima si faceva a banchi doppi come si è a scuola, no? Quindi a fianco a me avevo una persona un po' più preparata, che aveva studiato un po' più di me, preparata non era molto, perché poi ci è capitata un'equazione, il compito allora era di 4 ore, il compito di 4 ore scritto, ma compito veramente, si aprivano le buste, c'era dentro il compito, quindi come un vero esame di Stato. E c'erano dei calcoli da fare, io in matematica me la cavicchio, e l'ho visto che aveva difficoltà a chiudere un'equazione, gliel'avevo chiusa io, però lui mi aveva passato la risposta del che io mi stavo inceppando, capito? Quindi non è che era così preparato molto, però insomma ci davamo una mano, adesso è più difficile da neanche a quiz, capito? È un po' più difficile, o hai studiato o non hai studiato, mentre prima, anche se avevi studiato quel poco, avevi la possibilità magari di farti aiutare dal compagno vicino, adesso invece è una rottura di palle, ti mettono tutti in fila, proprio come fanno per gli esami di Stato, capito? Avanti Gianni, riprendi. Quindi Daniele, roba seria? Provando, ci siamo già. Lo so, qua è un bel macello, se fosse stato doppio, guarda, sei pure tentato, che ce n'è uno che al corso, che è un cranio, è quel ragazzo, sa tutto, fa università, fa tutto, non so come faccio di cosa su tutte queste formule, a me l'ha detto. Daniele, ti nasce, ti ripeto, lì ai tempi miei, quando ho dato l'esame io, i compiti erano diversi, era un compito vero, scritto, capito? Quindi quando il professore, l'assistente, il presidente della commissione, tutti aprivano le buste, intanto, ti sto parlando, quando ho dato l'esame io eravamo in 120, adesso massimo che se ci sono 10, 15, 20 persone, ma ogni sessione di allora erano a colpi di 100, 120, 130, addirittura facevano anche in due turni perché non ci stavano, capite, in due sale diverse. E quando una volta che eravamo tutti seduti, tutti a posto, il presidente della commissione diceva chi è che vuole dare i numeri delle buste, quindi la 1, la 2, la 3, ma che va a dire anche buongiorno. Una volta è capitato a me, proprio al mio esame, io sono levato la mano, più fretta degli altri, ho detto per me ingegnere la 3, perfetto, allora apriamo la 3, ed è capitato un compito non difficile ma abbastanza facile per le, infatti tutti erano contentissimi perché c'era le tensioni di un alimentatore, c'erano delle domande di codice Q, c'erano la costruzione di un'antenna a proiezione verticale, ma lo ricordo come oggi, c'erano 5 praticamente domande dove poi c'era il compito scritto, c'era anche un'equazione di mezzo che mi pare che erano dei calcoli di un oscillatore di frequenza, una cosa del genere, comunque non era difficile. Oggi no, oggi a quiz, quelle sono domanda e risposta e tu lì devi cercare di colpire, perché mi sembra che puoi fare 2 o 3 errori, adesso mi ricordo. Da noi era messo poi tutto in brutta coppia, fatto in brutta coppia, e poi dovevi ricopiare tutto in bella e lasciare la brutta coppia in mezzo, perché loro dovevano controllare se effettivamente tu avevi copiato, capito? Non è che dovevi scrivere direttamente, no, prima la brutta coppia, 2 fogli protocollo, a 4, capito? Prima dovevi fare tutto in brutta coppia, tutti i calcoli, tutte le cose, scrivere tutto in brutta, e poi avevi il tempo per ricopiare in bella, ma dovevi lasciare anche la brutta coppia in mezzo, chiudere la tua busta che loro ti davano sigillata, metterci nome e cognome e consegnarla, capito? Era più, un po' più, mi ricordo sempre, io ogni tanto abbassavo la testa perché c'avevo sempre qualche fogliettino sotto di qualche formuletta. l'ingegnere Biglio che adesso è in pensione, mi riprendeva spesso, cioè, avanti, cosa c'è, ma di testa? No, no, ingegnere, sto pensando, pensi a testa alta, mi diceva, anche sotto, e la Gadrea va più un fogliettino, va a copiare, capito? Vai già. I soliti camuffi che si fanno, li abbiamo fatti un po' tutti, dai, quando si potevano fare, quindi già mi immagino la scena, ragazzi. Aspetta, c'è qualcuno che mi vuole dire qualcosa, che ho sentito delinquente, e beh, ognuno si arrangiava come poteva, però io ho fatto un esame solo, uno promosso e via, poi... perché allora le patenti erano separate, Gianni, adesso sono unificate, capite? C'è un'unica licenza e patente, mentre prima erano due, la speciale e l'ordinaria. La speciale era l'IW0, l'ordinaria era IS0, e quindi si dovevano avere due esami. IS0 comprendeva la telegrafia, siccome ho fatto il militare in marina e ho fatto 22 mesi di marina, di cui 6 mesi li ho fatti imbarcati sul Vittorio Veneto come radiotelegrafista. Quando sono andato a dare gli esami della telegrafia mi hanno esonerato, praticamente non mi hanno fatto degli esami, sono passato per direttamente IS0 senza avere gli esami di telegrafia. Dopo, mi pare, neanche un anno l'hanno abolita la telegrafia, e quindi tutti quelli che avevano una patente speciale, quindi IW0, il mio nome attivo era IW0 URT, il primo, poi il secondo, io vabbè, IS0 DFB, praticamente tutti quelli che erano IW0 dovevano fare la domanda per passare IS0 direttamente d'ufficio. Molti infatti hanno fatto la richiesta di cambio di nominativo, però la telegrafia era già abolita, capito? Già. Quindi sembro fortunato, Daniele. Se c'erano le due ti dovevi preparare per due esami, invece ti stai preparando per uno solo. Cavolo, vai a far vedere Antonio. Dice che quante persone sono, ne scendono solamente 3 o 4 mi sembra. Dice, se uno vuole riesce a fare tutto. Totalmente d'accordo se uno vuole, ma uno deve avere anche il tempo per prepararsi, non è che in pochi mesi, quanti siamo? 3 mesi riesce a fare un intero programma che ho fatto io in seconda, dove ci ho messo 9 mesi a farlo. E vabbè, Antonio chiaramente come preparatore non vuole fare brutte figure, quindi porterà sicuramente la gente che secondo lui sono più preparate, capito? Anche perché quando ho dato l'esame io, ripeto, corsi non ce n'erano, c'era una preparazione così molto molto velocemente, quindi o studiavi o non studiavi, io mi ero preparato con la buona anima di Tore, il Torellai, capito? Che non c'è più da qualche anno. Quindi siamo preparati assieme, abbiamo studiato, la sera io, anziché stare alla radio, andavo a casa sua, ci chiudevamo lì nella sua cameretta e studiavamo assieme, quindi ci facevamo le domande, le risposte, facevamo qualche disegnino per poter iniziare a non sbagliare poi il compito che ti davano scritto, insomma ci siamo preparati, siamo andati, infatti ero io URT, lui URE, capito? Eravamo proprio quasi stesso nominativo, perché abbiamo lavorato assieme. Va bene, va bene. Caro Gianni Rubrofetta, e tu non ti piace di diventare radioamatore, vuoi rimanere CB? Qua. C'ho una tromba d'aria in testa, vabbè, adesso è un po' più calma, dai. Ce ne sarebbero di cose da fare, quindi per adesso mi accontento di questo, quindi va bene così. L'importante è fare radio, guarda a me, io dal 93 sono radioamatore, sono sempre qua, ho tutto quello che mi serve, non mi faccio mancare niente, però mi piace fare... rimanere qua a fare due chiacchiere, ma se poi voglio spegnere questa e passare dall'altra parte lo faccio ben volentieri, per salutare gli amici, per fare due chiacchiere come faccio spesso. Però io ho preso la patente già perché ero monello, Romanello, usavo cose che non si potevano usare, amplificatori ad alto livello, ho sempre avuto questo tipo di radio già dall'83, poi nell'87 avevo cambiato, quindi baracchini ne ho usato pochi. Adesso il radio mi tentava moltissimo, moltissimo. C'era il riformettore che era appena fatto, si mettevano due riformettori, sollevavano il telescopico, dopo neanche un quarto d'ora, 20 minuti, campanello. E mi marcavano stretto perché ero monellaccio. E allora ho detto magari me lo vado in là, ma allora c'era una grossa penale, multe salatissime, penali, eccetera, quindi ho detto mi prendo la licenza, la patente, così posso detenere tutto quello che voglio e nessuno mi rompe le balle. E così ho fatto. Io non sono mai stato un vero e proprio radioamatore, ci sono nella carta perché ci sono, ma attività vera e propria non ne ho mai fatto, però non sono di quelli che non mi manca niente. C'ho tutte le HF che mi servono, le V, le U, il parco antenne che ci vuoi, c'ho tutto, però non mi biasi. Non l'ho mai fatto come fanno tanti, capito? E non me ne affutti nulla, ognuno la pensa come vuole, vero Daniel? Così Ecla, così. Una cosa in più, dai, sempre bella bella, ci provi e tutte cose. Almeno sei più tranquillo e sei più libero, dai, senza avere tutti i vincoli che ci sono adesso qua. Ho sentito un break sotto, basso, avanti il break. Ho sentito un break poco fa, basso, prima dell'ultimo passaggio di Claudio. Non so, io non sento niente. Avanti, chi vuole entrare sul 10? No, già, io non sento niente, la verità. Sì, ma infatti ognuno fa radio come vuole. Io ho avuto tantissimi scontri per questo argomento che non voglio ripeterlo. Ognuno a casa sua fa quello che poi le piace, ok? Uno può essere radioamatore, può essere CB, può essere pederasta, può essere orecchione. Ognuno fa quello che le piace. A me piace fare radio così e nessuno mi può imporre di fare quello che fanno gli altri, a prescindere che posso farlo, quello che fanno gli altri, perché non sono indietro a nessuno. Però a me piace fare radio in una certa maniera e la faccio come pare piace a me, capito? Sono discorsi che a me non mi sono mai interessati. Io me l'ho presa da me, la verità, perché avevo necessità di avere una carta in più, perché avevo radio di tutti i tipi e aggiungato del danno di birata, quindi per dirlo papale, e perciò rischiavo grosso. Alla fine ho messo le cose a posto e vado avanti per la mia strada senza mai chiedere un cazzo a nessuno, e quindi gli altri si devono fare i fatti suoi, facciano radio come vogliono, come credono e come non me ne ha fottuto nulla a me. Io la faccio a modo mio. Vai già, cosa stavi dicendo? No, niente, no, adesso ero distratto, mi ha mandato un messaggio a Marcolino riguardo a... Adesso, vabbè, dopo lo apro, lo leggo bene. Adesso mi sono un attimino incartato. Mi sono perso il filo del discorso, vabbè, stiamo parlando di pirateria varia anni fa e roba del genere. Mi sono un attimino perso. Dai, riprendo io che vi saluto e qua è pronta la pappa. Ci ascoltiamo domani se coincide. Che te devo dire Daniele? Dai, ci aggiorniamo, saluti a casa. Buona cena e buon tutto, e anch'io. Un altro passaggino, mi con Gianni, poi spengo anch'io perché vado a avermi uno straccio di partita, perché poi alle 9:15 mi guardo quasi tutto il primo tempo, poi alle 9:15 c'è questa bella cosa di mafia che a me piace tantissimo, quindi mi guardo quello. Vai Gianni! Kappa. Ciao Daniele, buon proseguimento, dai, ci aggiorniamo eventualmente anche per portare avanti quella prova con l'antenna, quando sarà. Adesso non ci mettiamo in fretta, fai giustamente le cose che devi fare tu e poi vediamo se è fattibile, dai. Niente, dai, buon proseguimento Daniele. Ehi, già, quando sei pronto dimmi, non c'è problema, dai. Va bene, dai, buon proseguimento e buon tutto, a domani, ciao ciao. Ciao Daniele, alle prossime, dai. Tu già mangiato, hai già? No, adesso infatti più o meno mi unisco alla carovana, visto che ci siamo più o meno, allora è quella, mi mangio, magari mi faccio un'insalata. e poi sono a posto, dai. Ehi, ehi, dai. Allora chiudiamo, andiamo a cenare, poi se magari coincide vi accendo, altrimenti a domani, sperando che il tempo sia buono, perché mi sembra che non sia molto bello domani, così tanto per cambiare, vabbè, io non aggiungo nulla, non mi interessa. Se andiamo in campagna andiamo per mangiare e bere, ma non ho nessuna intenzione di mettermi a fare nulla. Ciao già, grazie delle due chiacchiere, saluto tutti quelli che sono in ascolto e ci riaggiorniamo a domani. Ciao, buona cena. Altrettanto, dai, ci aggiorniamo, grazie alla chiacchierata e all'improvviso come sempre. E quando capita l'occasione, dai, già siamo sempre qua. Ok, dai, buona serata. Ciao già, domani. Travesso. Cosa ma? Ho detto ciao belli belli di Travesso. Ehi, ehi, ehi, e tu hai già mangiato, io mi vado a tossicare qualcosa e poi mi sdraio un po' nel divano e ho questa gamba che anche a me fa male, dai. Ciao Marcoli, saluti a casa, a frappè. Le unghie si mangiate. Claudio ha la gamba grassa. Ehi, ciao T, meno male che l'hai detto bene, perché stavi per i ceppatti. No, magari è il microfono che ti spicca a pensare a quello. Andate a mangiarvi le unghie. No, io me le ho tagliate stamattina, sia quelle dei piedi che quelle delle mani, Anto. Ciao T, ci sentiamo, dai. Va bene, ciao a tutti, ciao, sono qua in quadrini. Ehi, ehi, qualcuno se le mangia davvero le unghie, Anto? Va bene, si chiama onicofagia. Ben sentiti a tutti quelli che c'erano in ruota in ascolto, dai, piacevolmente in ascolto, buona serata. Ciao Anto, bene, ho detto, stavi ascoltando? Noi Radio Amatori usiamo la radio, come cazzo ci pare ci piace, vero? Non credo, perché c'è qualcuno che lo mette in dubbio. Allora, no, qualcuno ogni tanto si dimentica chi è Claudio Sparviero. Ragazzi, di questo non so niente, io ero in ascolto da un quarto d'ora a questa parte, quindi mi devo essere perso qualcosa. No, sto parlando di tempo che fu, no. Tempo che fu è un tempo che non può mai tornare, mai più tornare, bisogna guardare sempre avanti, ci siamo divertiti però, Ma io continuo a divertirmi, nonostante qualcuno pensi che non lo faccia, tanto continuo a farlo, tranquillo che continuo a farlo. Io ripeto, ribadisco che ognuno usa le radio come vuole, io le uso come pare piace a me, se poi qualcuno le sta bene basta non ascoltare invece di fare sempre l'orecchio da porco, capito? Ciao Anto, saluti a casa, dai, vado a cenare, un abbraccio a tutti, bye bye. Papà, e quelle persone sono quelle persone che devono, faccio l'ultimo passaggio, sono quelle persone che devono tenere secondo loro un contegno, capito? E quindi non si mischiano alla marmaglia secondo loro. E vabbè, limitati si chiamano, perché si autoeliminano e eliminano. Comunque un saluto anche a Tino e a chi era l'altro? Luca mi sembra, no Luca. Non mi ricordo. Gianni Lobroffetta. Sì, ma infatti si autoeliminano da soli, hai detto bene. Ma io non mi sono mai autoeliminato, ripeto, ribadisco. Posso fare sia una cosa che l'altra, non sono indietro a nessuno, a me piace stare qua e questo. È inutile che loro continuino ogni tanto, sento, mi arrivano all'orecchio e sempre i 27, non entra mai in HF o in VNU. A me mi va di fare così e continuo a fare quello che mi pare piace, no? Ciao, Anto, un abbraccio, se no polemizziamo troppo. Ciao. Lo saluto anche io, Antonio, ma lo sento pio, non ho capito chi è qua. Salutamo comunque, nel caso non dovesse arrivare. Il pulcino sono, il pulcino pio. Ti sento, il pulcino pio è Antonio Grobbe, siamo vicini, mi arriva 9 a me, e tu sei distante, dai. Ciao T che vado a mangiare, ci sentiamo ragazzi, ciao a todos. Ehi, va bene, ciao, tu, ciao, ti ascolto pio e quindi non avevo capito che tu. No, niente, io invece non vado a mangiare ma vado a fare il fuoco, ci sentiamo più tardi. Volentieri, ciao. L'altro era Marco Condor, mi sono dimenticato. Ciao Marco, se sei ancora in ascolto. Ehi, ciao Antonio, dopo un'era, dopo tanto. Io sto entrando poco perché non ho manco più voglia, mi ha detto tra noi. Avevo venduto tutto con la Mondezza HF, VU, tutta quella robaccia lì. prendo il cazzo e tengo il baracchino in buco, ma non... ci sono altri problemi tipo, più tangibili qua, altro che il baracchino, dai, ci sentiamo, ciao, buona serata. Senti, ti spero nulla di grave, comunque dai, ci sentiamo presto, ciao ciao. E comunque Anto, a parte gli scherzi, sei Radio 2, ti sento proprio a filo, segnale anche buono mi. E lo so, ma sono in condizioni precarie, come sempre, non ti preoccupare, già va bene così, ciao. Ciao, ciao, ciao Anto, buona serata.